Cioè, così proprio, non volevi fare un po' di salottino? Se fosse per me, recherei tutto, tipo microfoni in giro, hai capito? Tutto. Attenzione, attenzione, Radio ZM torna a zona rossa. Oddio. Era, allora, ci stavamo credendo del fatto che fossimo dei falliti, perché pensavamo che ci stessero paccando per... perché settimana scorsa sì, tutto bello, la puntata simpatica, c'era tanta gente, ha risposto bene, non succede mai di solito. Redazione nuova, tutti non succede mai, bene. Esatto, infatti... Abbiamo trovato per la strada un attore così, che era randagio, vagava nel vuoto. Che ci aveva promesso che sarebbe tornato, invece alle 7:15 eravamo ancora io, Guglielmo e mezzo della sua famiglia in diretta su Zoom. Sì, sì, sì, sì. Perché abbiamo fatto gli auguri a tutti e a tutte. Ciao cugine! Salutiamo, dopo ci sarà anche uno spin-off in riferimento a questo. E invece... Tommaso Rossi è entrato. Oddio, se l'ha ricordato, ci vuole bene. È entrato da questa porta e è stato fantastico. Perché è stato fantastico? Cosa? Perché c'è un punto in cui funziona bene e un punto in cui funziona male. Hai ragione. E quindi dovevo fare il test ennesimo che fosse il punto che funziona bene. Abbiamo dato a Tommaso Rossi un mazzo di 75 bigliettini dei Baci Perugina. Spieghiamo perché, però. Perché? La puntata di oggi, Guglielmo. La puntata di oggi è una bella puntata. Giusto? Sì. È bellissima, è bellissima. La lavagna. La lavagna. Cos'è la lavagna? Non ho capito. È interrogato, chiamato. Era Corradia la lavagna, non avevo capito. E sai questi accenti strani che vengono da altre parti del mondo, non li comprendo. No, la questione è questa, non mi ricordo più su indicazioni di chi. Abbiamo deciso di parlare questa settimana di sentimenti. Rachele. Il lancio è stata Rachele settimana scorsa, che non so in che contesto stava parlando, e ha detto che ci sono tantissimi sentimenti, che lei in un laboratorio hanno fatto fare un gioco in cui in un tot di tempo dovevano tirar fuori circa 16-17 sentimenti. Noi avevamo tirati fuori 3-15. Esatto, in 3 minuti 15 sentimenti. Tra l'altro bisogna fornirsi di penna oggi, perché bisogna segnare i sentimenti che escono, perché mano a mano che andremo man mano che andremo avanti segneremo tutti i vari sentimenti fino ad arrivare speriamo quanti sentimenti si possono provare. Il più possibile, perché ovviamente tutto questo si basa su un articolo che forse io ho letto, ma che non ho neanche ricercato in realtà, quindi molto zona rossa, che dichiarava che noi possiamo addirittura sentire fino a 6.000 emozioni e 6.000 sentimenti, ma non le sappiamo categorizzare, non le conosciamo, ne conosciamo poche. Non sappiamo nemmeno il nome di questi fantastici sentimenti. Poi nella nostra umile, bruttissima vita non è che possiamo aver provato chissà che cosa. Ma poi tra l'altro noi che siamo degli inetti, perlomeno io che sono sicuramente un inetto, provo molto poco in generale, a questo punto... In tutto questo ricordatevi che la puntata la fate voi, quindi mi raccomando, risposte creative, vi vogliamo creativi. In tutto questo ci siamo anche impegnati, un quarto d'ora prima dell'inizio della puntata, a fare una specie di playlist. Una playlist che tendenzialmente vuole ricordare un po' le emozioni, la trash, i sentimenti, farvi navigare. I sentimenti, la trash, i sentimenti. Quello, esatto. Quello. Maledetta primavera. Esatto. Io inizierei a mettere la sigla. Perché prima l'attore Tommaso Rossi ci parla di sentimenti. Ci vorrebbe un tappeto musicale a questo punto, ma adesso lasceremo il casino della rubia platino, va bene così? Però la faccio con una voce di un nostro amico. L'attore sei tu. Compagno. In amicizia si è disposti a perdonarsi a vicenda i piccoli difetti. Grazie. I pupi. Zanetti. Grazie. Grazie Tommaso Rossi, grazie mille. Oh, una bella sigletta tranquilla per iniziare con calma questa puntata sui sentimenti. Siamo talmente meschini che abbiamo iniziato prima, è da 10 minuti che ce la cantiamo, ce la ridiamo, ma va bene così. Zona Rossa, Radio ZM, bentornati e bentornate. Oggi è il giorno più allegro della settimana perché è mercoledì. Assa. E abbiamo deciso di dedicare tutta la puntata ai sentimenti, quindi mi raccomando, ricordatevi che la puntata la fate voi, sia rispondendo al telefono che scrivendo sulla chat Telegram, Radio ZAM, _chat. Ci è stato detto dall'attore, mentre eravamo fuori onda, dall'attore Tommaso Russi, che abbiamo assunto di recente, TR7. Ci è stato detto, ci ha guardato a me, a Gulli, mentre iniziavamo a scrivere chi chiamare, le cose, le storie, ci è stato detto: siete serissimi. Siamo serissimi. Ma tu stai scherzando. Zona Rossa è una cosa seria. Madonna, Zona Rossa sta diventando terapeutico. Sì. E Zona Rossa viene copiato e emulato. Ma ovunque nel mondo. Più... cioè, Radio Taiwan. Sono due idioti che dico: parliamo di sentimenti. Anche qua il razzismo mio che esce fuori proprio. Esatto. Poi, oggi è un giorno molto importante perché è nato un grafico in redazione. È nato un grafico in redazione, è vero! È nato un grafico in redazione, è vero. Guglielmo ha iniziato a... È merito tuo l'opera d'arte che è uscita. No, non sono un grafico, io sono un comunicatore. Io sono un comunicatore. In questo momento sono sbarcato sul mondo dei meme, ma esatto, in realtà... Esatto. Ma Alfred, no, dobbiamo chiamare anche lui. Ma ragazzi, quanta gente dobbiamo chiamare? Vabbè, dai, iniziamo dal primo. Diciamo altre cose. Una frase velocissima, attore Tommaso Russi. Un attimo. Quando tutto sembra essere contro, ricorda che l'aereo decolla contro vento. Grazie a Zanetti, che con noi, che legge frase di Baci Perugina. Adesso le fai tutte così, però. Non mi devi rispondere, capisci? Se no, non esco dal gruppo della comunicazione. Oh, Riccardo. Ciao, Riccardo. Sto chiamando da. Con chi parli? Con chi parli, scusa? Esatto. Abbiamo fatto il test. Ale! È tutta colpa sua di questa puntata, è tutta colpa sua. Aspetta, ti posso racchiudere. No. Ah, niente, comunque sul telefono, bisogna chiamare Raffaele, non mi chiami, abbiamo detto, chiamiamo Raffaele, ciao, fra poco. Basta. Zona Rossa, gli mette giù il telefono. Riccardo, non ti meriti niente. Io però voglio sapere anche com'è finita settimana scorsa, con tutta quella frustrazione di cui ci parlava lui. Sai che pare che l'abbia fatta pesare. Poi Raffaele non è una persona vendicativa, emotiva, no, per niente. Tanto, cosa sta partendo sottofondo? Un trapano? Per il tunnel! Allora, ho due numeri salvati come Rachele. Io chiamo il primo e vediamo un po' se ci fa funzionare. Rachele e Zam, tutte e due, tra l'altro. Sì, numeri... un messaggio gratuito. Ma veramente? Pensavo fosse Riccardo che faceva il verso alla Vodafone. Non ci posso credere. Raga, ma cos'è sto suono? Bel, Cherry o Baby? Sicuramente sotto c'è della musica perché siamo in radio. Eh sì, è Sherry. Sherry o Baby, ma incredibile. È una chitarra pazzesca. Ma veramente. Allora, in tutto questo, Riccardo ci ha fatto passare Rachele non ci risponde al telefono. Ma e io di Rachele sono... abbiamo un numero sbagliato. Io sono veramente handicappato a usare i telefoni in diretta. Eh certo. Ma soprattutto perché... Ma che numero è che inizia con 72? No, è perché tu devi digitare le lettere del nome a cui appartiene il numero. Sai, per cercare una rubrica negli smartphone. Come da Supreme. Esatto. Con i numeri. Sei fortissimo, Tommaso, sei al pezzo, cioè sei proprio sul pezzo per quanto riguarda nuove generazioni, nuove categorie espressive. Oh, ora abbiamo chiamato la persona giusta. Oh, ecco, esatto. Allora? Abbiamo appena cominciato, innanzitutto. Esatto. La sorpresa più bella è che non ci aspettavamo Tommaso, invece è arrivato, quindi abbiamo anche l'attore. Abbiamo l'attore Tommaso Russi, qui con noi. Va bene, che Rachele, ha avuto una brutta giornata e per sentirsi meglio è venuto a Zona Rossa. Cioè, renditi conto. Stiamo diventando così terapeutici che anche noi stessi ci curiamo a vicenda. Fantastico. E oggi la puntata la dedichiamo a te, Rachele, perché è quella che l'ha lanciata praticamente. La puntata Rachele è sui sentimenti. Carini. Innanzitutto, come stai? Tutto bene? Bene, mi hanno appena trapanato il naso e il cervello con un tappone. Ah. Ed hanno trovato qualcosa? Punto di domanda. Tipo 5 minuti fa ero sotto torso. Hai pianto no, un po'? No, sono negativa. Sei negativa. Bene. Ottimo. Ma hai pianto un po' durante il tampone? È chiaro, a un certo punto ti scende la lacrimuccia. Vedi, è stata, questa cosa è molto bella. Poi ne parleremo più tardi. Perché non sei un uomo vero. Oi, attenzione, beh, ma, hai tirato anche su un se tema. Ti tiro un dito nell'occhio, piangi, sai. Anch'io, ma perché neanch'io sono un uomo vero. Attenzione, la dice grossa, è ancora più grossa. Ne dirà altre più grosse, perché adesso l'attore ti farà la domanda, perché abbiamo sviluppato dopo giorni e giorni di assemblee plenarie, di discussioni, la domanda della puntata. La domanda che tu ci hai suggerito e che lui ha già dimenticato, perché chi ha il terzo microfono in mano ha un'amnesia selettiva per quello che deve dire. Prima era Cigo, anche Riccardo. Allora, ti dimezziamo la paga all'istante. Esatto. No, allora, io so il campo di indagine. Allora, se vuoi te la faccio vedere la domanda, ma la muovo il diario nel frattempo, così non lo vedi. Prima o poi la metteremo la videocamera, senso, giuro, prima o poi la metteremo. Qual è un sentimento? Attore, che ti è familiare? Tra l'altro io suggerisco qual è un sentimento che mi è familiare? Oh mio Dio, a me o a Riccardo? Ma cosa c'entra Riccardo? Chiedi a Riccardo, perché Riccardo è il tuo familiare ormai. Un sentimento che fare colpa è un sentimento? Fare colpa è un sentimento? No, è senso di colpa. No, hai detto un po' senso cattolico, di colpa o fare colpa? Senso di colpa, non ho capito. Il senso di colpa. Il senso di colpa è un sentimento, sì. Ma va. Sì. Ma la verità, sentimento del senso di colpa. Il senso di colpa è una gran cagata. Ascolta. Però, compagni, amici, fratelli partigiani, abbiamo detto che mi spiace tutto al maschile, ma farlo col femminile diventava difficile. Abbiamo detto telefonate stringate, per cui chiedo perdono. La domanda era questa: attore Tommaso Russo, hai pregato di leggere come se fosse il gobbo. Qual è il sentimento che provi spesso? Spesso? Sì. La verità quando legge, però devo parlare io. Esatto. La rabbia, però so che sotto la rabbia ci sono altri sentimenti. Però uno ce ne devi dire. Abbiamo stato d'amore. Senti, voce fuori campo. Ma infatti, cioè, non ti paghiamo più. Il redazionista più pacco dell'universo mondo può stare in silenzio, gentilmente. Grazie. Va bene, allora noi abbiamo qui la rabbia detta da Rachele. Adesso noi spieghiamo il giochino. Noi chiameremo ovviamente altre persone durante la puntata e collezioneremo sentimenti. Per cui da ora in avanti nessuno potrà più citare la rabbia, perché l'hai già citata tu e praticamente penso che hai tolto il sentimento almeno a 3/4 una lista molto lunga di persone. Che voleva cioè, tutte le altre persone hanno di più diritto di sentire rabbia. Come ha fatto a capirlo? Ma è la radio che ha delle... Vuoi suggerirci l'episodio prossimo, visto che ormai esatto. Fai parte anche tu della redazione? Aggiungeremo Rachele al gruppo redazione. Faccio subito. No, non lo si fa. Fai come gioia. Tra l'altro poi devo fare... Comunque grazie Rachele, ti possiamo liberare. Credo. Aspetta, con una frase. Ti ribelliamo con una frase. Letta dall'attore Tommaso Russi. La stranezza è un ingrediente necessario nella bellezza. La stranezza è un ingrediente necessario nella bellezza. C'è una canzone che ti vogliamo dedicare, perché in una maniera molto rocambolesca io e Gioia abbiamo fatto una playlist in cui ci sono alcuni sentimenti, non tutti ovviamente, non tutti 6.000, e io suggerirei a Guglielmo di mettere la traccia che trova quella sopra, perfetto. Questa perché sì. Arriva da un film che si chiama L'Odio, non è la rabbia, però siamo lì, dai. È molto Rachele questa traccia, no, secondo me. Un attimo. Cosa? Bello, però vi ascolto in podcast, adesso dobbiamo tornare a casa. Ah, complimenti. Grazie. Tornate alle vostre magioni umili. Esatto, grazie. Allora, ci sentiamo tra qualche giorno. Esatto. Ci sentirete. Ciao Rachele, esatto. Tra qualche giorno. Ciao. Buon venerdì, buon Natale. Ciao Rachele futura. Ciao. Buon anno. Buon Natale. Cat Killer, tutto per voi. Guglielmo pompa al massimo il coso di destra. Just Fermi tutti, è successa una cosa incredibile. È successa una cosa incredibile. C'è un rumore sottofondo, che cos'è? Lo sentite anche voi? No, era la musica del mio telefono. Ah, ok, cioè, c'era una cosa che non funzionava. Però era carina. Niente, la cosa incredibile è che Zona Rossa attira. Attira corpi, attira voci, attira persone, attira pensieri. Oh, non iniziare anche tu questa storia dei corpi, attira della gente. Attira della gente, punto, basta. Andiamo normali. La cosa bellissima è che ci vengono a trovare fisicamente. Oddio, in diretta. Nella nostra radio sterminata infinita, in cui rispettiamo naturalmente tutte le regole anti-Covid. Ah, una persona fa parte della redazione, quindi già conosce tutto. L'altra non sa cosa le sta per capitare. Esatto, esatto, mi spiace. Ma si presentino le persone qui presenti con noi stasera? Col piacere, molti mi conosceranno come Niki o con molti altri soprannomi. O come il capo di Zam, il vero capo di Zam. Il vero capo di Zam. La new entry. Sì. E poi? E poi Cocaine. Cocaine, nome d'arte Cocaine. Cigo, hai capito? Cioè, tu non ti fai vedere da quanto. Fammi di merda, sei una merda, devi morire, Cigo bastardo, perché sei. È schifo, Cigo. Ripeti, schifo, scusa, ad alta voce? Dell'Instagram di Zam. Giusto. Oh! E non solo di Zam. Cazzo, tra l'altro possiamo dirlo, sempre per insultare Cigo, con Coki, l'Instagram di Zam funziona. Funziona, va, macina like, fa un sacco di cose bellissime. Esatto, appunto. È quello che sto dicendo. Cigo, sei una merda, fai schifo e ammazzati. Non ti si può vedere, quindi... Non ti sentiamo, sì, se non volte. Parli al microfono. Più volte. Cosa volevi dire al microfono? Bisogna dirlo almeno una volta puntata. Che cosa volevi dire una volta puntata? Cigo fa schifo. Brava. Cigo fa schifo. E due. E allora, abbiamo assunto un attore. Lo potete vedere alla vostra sinistra. Questo attore fantastico adesso sta facendo, vi farà. Sta facendo così con la mano. Sta facendo così con la mano. Perché così si capisce. Questo certo. È molto Zona Rossa. Molto Zona Rossa. Lo metteremo nella citazione del podcast. Esatto. Sta facendo così con la mano nel podcast. E l'attore adesso vi farà la domanda della puntata. Perché Zona Rossa è un programma ovviamente di contenuti. E quindi ha pronta proprio in cannone la domanda. E voi dovrete rispondere lì. A questa domanda. È un attore pronto. Vi dedicheremo una canzone. E una, sì. E una lettura dopo. Sì. Qual è il sentimento che provate più spesso? Ma quanto è attore? Ma quanto è attore? È incredibile. Rabbia. No, già detto. No, era facile switcha, questa. Switcha. Adesso figa, abbiamo tempo. Ma ci pensi la cosa? Facciamo la classifica di quello più votato. Va bene. Datevi una calmata comunque. Tutti cazzati neri. Basta Guglielmo, esatto, secondo me. Esatto. Cioè, no. Non va bene né rabbia né odio. Odio sì, abbiamo detto rabbia. Però a questo punto noi ci siamo dimenticati come dei babbioni nella telefonata di prima. Che in realtà il senso era adesso ci racconti un aneddoto breve in cui parli di quando hai sentito questo. È vero, Rachele, ci dispiace. Abbiamo usato come cavia per il primo esperimento e adesso andiamo avanti, miglioriamo. Quindi, sì. Ma aspetta, ma non ho capito, avete risposto insieme? No, adesso Aniki sta pensando a un altro sentimento. Okay. Quindi, a voce più scandita è molto più vicino al microfono, perché quello è un po' debole. Ok, mi scusi. Vai. Faccio così un po'. Molto meglio. Non con la mano sopra. Se vuoi qua c'è una lista, mentre mi suggeriscono di fare anche il regista ogni tanto. Hai ragione, va bene. Qua c'è una lista, prego. Ma una lista di che cosa, Aniki? Una volta in cui ho provato odio nell'ultime 24 ore. Ma quando vuoi, ma quella che vuoi raccontare. Spesso negli ultimi 30 minuti. Vai. Perfetto. Dici, raccontaci. Ok, prima ero gentilmente a piazzare al mio bar di fiducia e c'era gente che, insomma, non sarebbe il caso che fosse lì. Perché se piazzi al Civico 31, o uno come cazzo si chiama, poi non è che vai da Pico a fare l'amicone. Interessante. Che odio. A fare i tavoli fuori. Ma mi sta salendo un odio. Sì. Perché se ti devi sedere dentro, poi non puoi fumare. E quindi... Poi ti sta sul cazzo la gente che sta fuori. Soprattutto se gente che sta fuori non c'è mai. Minacce velate. Zona Rossa è anche bene, questo. Minacce bene, velate. Bene. Ma sì, mica sì, tanto sì. Velate. Guarda, il cazzo del Manzoni del 98 può anche andare a fanculo. Oh, my God. Che caldo. Detto. Ma è incredibile. Qua si affilano i coltelli, sono scintille a Zona Rossa. Non c'è problema. Abbiamo un programma che fa di tutto. Andiamo a prendere Maya, se ci sta ascoltando in Puglia dove sta. Madonna, e è vero, dobbiamo chiamare cosa. Maya. Vabbè, minchia, mettiamo. Ok. Ci vuole grazie una settimana. Mille, grazie mille, Cocchi, è stato gentile. Adesso la ragazza che è qui vicino è... Io vorrei sapere qual è il sentimento agape. L'agape è la torre. Una pianta che si coltiva su... Quella è l'agave. Ho fatto il classico. Allora, calma. Gulli, leggi. Anagrammi, dov'è il senso? Cioè, non c'è scritto. Vuol dire amore. In greco. Sagapo vuol dire ti amo. Ma che sito è? Non lo so, dizionario. Dizionario. Agape. I cristiani, agapi, i cristiani, conventi di fraterna carità. Tertulli. Vabbè. Ma Ma che cazzo? Non si trova perché una definizione normale. No, ma ti crediamo, ti crediamo. Amore. Quindi, qual è il tuo sentimento, Niki? L'agape. No. Ok, adesso ci racconti quando è che hai sentito l'agape. Non amore, agape proprio. Nel frattempo vado a cercare agape, scusaci. L'hai anche dichiarato poi, oggi provo un sacco di agape per te. Sì. E che aneddoto devo raccontare? Quando è l'ultima volta? Agape? Ma cosa... Ma ragazzi, ma un sostantivo femminile non è un sentimento. Niente, Cocchi, devi ripetere, cioè, no, qualche, scusate, classe. Adesso no, ho detto una cazzata. Cioè, non è che se è un sostantivo femminile non può essere un sentimento. Oh, basta, so sostantivo. 100% che sagapò vuol dire ti amo. O ti sagapò. Voglio bene. Ma in greco. Greco! Capito? Invece qui c'è scritto convito fraterno presso i primi cristiani. Ok, sono tutti dei fake di merda. Per estensione, banchetto rituale, raga. Agapao o agapò, non mi ricordo. Ah, sì, affetto amore. Stava a aprire la cosina. Visto che la mia prima parola era rabbia, sì. Tutte le volte che mi arrabbio sono così buona da agapare la situazione. Agapa la situazione. Zona, cioè, Rossa verrà contattato da Treccani probabilmente nel giro di una settimana e verrà aperto una succursale nel sito, no, proprio, raga, solo per noi. Ma cosa ha detto? Cioè, le abbiamo chiesto un aneddoto, lei ci ha raccontato che quando si arrabbia finisce tutto agapando, cioè ha verbalizzato. Fantastico, questa è Zona Rossa, adesso non lo so, esplodo in mille pezzi. Io manderei una traccia su queste note, perché sull'agapare abbiamo fatto una playlist. Ringraziamo Lady G e metterei la terza. La terza è una canzone d'amore di Boubacar Traoré, che dedichiamo a tutte le persone che in questi giorni stanno provando dei sentimenti molto corrisposti di amore, perché succede anche questo. Talvolta. E grazie mille, e quindi Zona Rossa tutto per voi. Agapiamo. Boubacar Traoré. Il programma che agapa. Love. Attenzione, c'è What is Love, c'è What is love. C'è What is Love, dopo la mettiamo perché, love, per il piacere di Norberto che salutiamo. Radio ZM, Zona Rossa, bentornati. Ciao, bentornate. Non so perché mi viene da fare sta voce, però mi viene da fare sta voce molto, molto suadente, molto suadente. Vi ricordiamo la chat Telegram a cui scrivere i vostri sentimenti, tutti quelli che volete. Radio ZAM trattino basso chat, verrete ovviamente richiamati. Ci arrivano dei messaggi. Ma cazzo, c'ha ragione Rachele, con Ludovico Einaudi sotto. Esatto. Ma Rachele parlò di emozioni. Come siete passati i sentimenti? Perché siamo, perché dei, siamo babbi dei di esatto, perché siamo dei bruciati di erano le emozioni. Qualcuno ci scrive: ah, ciao, vi amo, ciao. Beh, sì, ma questo, beh, questo capita chiaro, troppo spesso. Non li leggiamo tutti perché sono troppi. Certo. Però abbassa il deck di sinistra prima che ci uccidiamo. Sì, scusa. E quindi riprendiamo le fila. Andiamo avanti sui sentimenti o andiamo avanti sulle emozioni? Redazione interna, diteci. No, io dico... Per favore, potreste stare un po' attenti voi due. Niente, cioè attore, attore, dici. Io dico emozioni. Ok, l'attore dice emozioni. Guglielmo, sentimenti o emozioni? Non lo so, io volevo andare a vedere la differenza perché non mi è chiara. Ultimamente non ho chiaro molto, quindi mi sono impegnato a fare un'altra cosa. Ciao. Perfetto, ok. Sì, allora, voi invece cosa dite? Sentimenti o emozioni? Ok, ci manca soltanto una risposta. Beh, la direttrice ci dirà che cosa fare. La sta cercando il regista e la direttrice ci dirà cosa fare. Intanto io sto andando a prendere solo l'unico che ha un nome, un cognome così bello. La direttrice, ma va bene lo stesso. La direttrice dopo, la direttrice dopo. Adesso cioè tu l'hai salvato così proprio? Per sì, cognome? Certo, per cognome, sì, sì, sì. Attenzione Squilla, spero abbia finito di traslocare. Comunque a lui chiederei la differenza, di spiegarcela. Così lo mettiamo in difficoltà, esatto. E poi gli chiediamo. Tra l'altro non ha il mio numero, vediamo se risponde. Comunque siamo dei babbi di cazzo. Pronto? Bentornato su Radio ZM. Buonasera. No raga. No, sono in mezzo al trasloco raga. Lo sappiamo, ma lo sappiamo. Sono in mezzo agli scatoloni. Appunto. Sono, devo fare un miliardo di robe. Appunto. Quando sentirai la domanda della puntata capirai. Cioè, ma poi no, tieni, raga, fai quella vabbè, cosa scomodissima, dai. Tieni il telefono con la spalla e usa le due mani per lavorare, sei tutto storto, sentiamo... poi ti viene la cervicale, no, stai male, stramazza solo. Ditemi che ha concepito la domanda della giornata, così mi faccio già un'idea. Rachele. Rachele, sei contento? Ok, che non so chi sia. Perfetto, bravo. Però non fare queste cose da boomers, tipo schiacciare i tasti con la guancia, ti prego, ti prego. No, guarda che sono veramente io. Ah, ok, vai. Allora, l'attore Tommaso Russi, TR7, ti leggerà la domanda della puntata. Ma forse abbiamo una pre-domanda. Sì, vai, vai, vai, fai la pre-domanda. Già si sta complicando la situazione, vai. Tranquillo, sei mezzo trasloco. Ti abbiamo chiamato per questo. La differenza tra emozione e sentimento. Oh cazzo, cioè state parlando con me che sono proprio il più scarso in... Ma non è vero, ma dai. Ma questa è la domanda preliminare? Sì, sì. Bravo, sì. Poi c'è peggio. Sì, sì, per sì, la sì. Cittadinanza. Sì. Allora, a sentimento, vado a sentimento. Me, cioè, così, detta così, mi sembrano proprio due cose, cioè, proprio, mi sembrano proprio due cose diverse, emozione e sentimento. Giusto, cioè, emozione... L'emozione è una cosa che provi per qualsiasi cosa, cioè mi sembra una roba un po' più, non so come dire, un po' più generica. Il sentimento mi sembra una cosa di un po' più specifico, magari verso una cosa più specifica, che ne so, verso una persona provi un sentimento, un'emozione la provi, è quasi una sensazione, non so come dire, no? Allora, se la redazione, è una risposta bellissima, mi è piaciuta molto, però... se la redazione è d'accordo io virerei la domanda su, non sul sentimento ma sull'emozione, per la risposta che ha dato. Sì, ma la mia risposta è un po' una non risposta in realtà. Vabbè, comunque. Ma tu non sei preoccupato che vai bene. Tu sei una non persona, vai Mattia, esatto. Quindi va bene così. Ma vai a cagare, ma perché Guglielmo ancora parla? Tu guarda, su quello ce lo chiediamo da tempo, gli abbiamo pure dato un programma radiofonico. Esatto, pensa che errori si fanno a Milano Sud, che errori. Va bene, Mattia, ricordati soltanto Barcellona. Sei in radio. Esatto. Ciao Guglielmo. Ciao Barcellona, mi raccomando Mattia. Adesso Matteo, cioè Tommaso Russi, attore, ti farà la domanda. Ma cosa vuol dire Barcellona? Io dico Barcellona fuori, tanto. Non ho capito. Tranquillo, non ti preoccupare. Vai. Se arriva, Tom, arriva. Se non arriva, arriva. Esatto. Qual è l'emozione che provi più spesso? Vai Mattia, vai. Oh cazzo. Allora, raga, quasi quasi preferivo il sentimento che provavo più spesso, però va bene. Dalla tua risposta ci è venuto da chiederti l'emozione. Esatto. L'emozione che provo più spesso, sì, forse lo so, come si dice quando sono, l'insoddisfazione. Oh, perfetto, e ci vuoi raccontare un momento in cui sei stato insoddisfatto? Boh, risponderei tutta la vita, però aspetta, fammi essere un po' più specifico. Esatto, restringi un pochino, no, allora, poco poco. Allora, sì, posso dire una cosa? Sì. Posso dirvi, minchia, me la rigiro in modo un po' da paraculo, però vabbè. Vi dico la volta in cui sono stato soddisfatto e tutte le altre sono insoddisfazioni. Attenzione, va bene. Allora, la volta che sono stato più soddisfatto di me è quando mi sono iscritto all'università dopo tanti anni che avevo abbandonato gli studi e poi mi sono laureato. Cioè, quindi il fatto di laurearsi alla soglia dei 30 anni dopo che mi sono iscritto all'università a 26 anni, dopo che avevo chiaramente virato completamente obiettivi nella vita e essermi rimesso in gioco e aver superato le prove con più o meno nei tempi, ecco, stabiliti, quella è stata una bella soddisfazione. E tutte le altre cose che non sono riuscito a raggiungere, insomma, sono soddisfazioni. Una piccola lista, vai, spara. Una piccola lista, sì. Madonna mia. Tutte le volte che avevo detto stasera non bevo e poi è finita che ho bevuto. Che insoddisfazione. Si chiama dipendenza, cioè un problema serio. Non sono stato soddisfatto di me, ecco. Bene. Le volte che avevo detto, le volte che non sono stato risoluto come speravo. Senti, che generale. Linguaggio, si vede che scriveva post quest'uomo su Facebook. È pieno di contenuti, veramente. Pieno. Sono davvero contento che ti chiami. Sì, ma anche voi, fate delle domande troppo concettuali, ragazzi. Allora, sai cosa succederà? Entrerai dentro la redazione di Zona Rossa e le proporrai tu. Oddio, l'ha detto! Da Dio, domani ti buttiamo nella chat e finisce male. Rigodanza, è finita per te. È finita. Grandi, bella raga. Torna in scatola la roba. Bella. Ciao. Ora vogliamo salutare in diretta la nostra ottima DJ che ci è stata data in prestito dai Ribelli, che ha pensato a una canzone veramente particolare che vogliamo mandare. Ringraziamo Rigodance. Sì, ricordiamo Rico Dance per averci detto cose belle. Prima io farei dire all'attore una citazione. Vai, prego, e magari qualcosa anche ai nostri ospiti. Pensate qualcosa da dire. Pensate a cose da dire. Ah, leggono anche loro adesso, sono attrici allora, in stanza. Allora, diciamo, impostati. Vai. C'è bisogno. La stranezza è un ingrediente necessario nella bellezza. Ma l'aveva già letta. È arrivato però. Antonio Banderas. Non l'aveva già letta. Banderas non l'aveva letta. Banderas, grazie. Devi alzare la voce, non ti devi si sente. Devi parlare quando noi non parliamo. Il gioco è qua. Urla. Urlo. Sì. Vai. Genio, cazzo. Quanto? Guarda. Date un attore a quel mondo. Abbiamo fatto bene a farti studiare. Se vuoi volare, lascia andare tutto ciò che ti pesa. Molto Nicky questa frase. Questa è molto Nicky. Grazie. Però non è Nicky, ragazzi, è nuvole. Nuvole di emergency. Io c'ho una frase di merda. Cosa avrà voluto dire questa frase? Dopo te la spiego fuori onda. Ok, grazie. Vietata under 18? No, assolutamente. Okay. Under 17. Alza un po' il tappeto sonoro, però. Ma volevo dare solennità. Ma giusto poco. Io non sto facendo un cazzo, però va bene. Vai tra. Voce. Comunque certo che nulla al mondo rende l'uomo tanto necessario quanto l'amore. Non mi è piaciuta. Io non l'ho capito. Fanculo Goethe, vaffanculo. Beh, dai, povero Goethe, ha detto anche cose belle. Ci vuoi annunciare la canzone, Costanza? Basta leggerla. Devo pensarlo un attimo con... No, non devi pensare. Devi leggere. devi annunciare la canzone. Ok, Night Swimming, Official Music. Official Music può anche non esserci. Insomma, dei REM. Oh, perfetto. Spacca. Grazie Lady G, grazie per il supporto tecnico e audio. Shirt at the water's edge, the moon is slow tonight. Night swimming deserves a quiet night. I'm not sure all these people understand. It's not like years ago. Fear of getting caught, the recklessness of water. They cannot see me naked. They go away, replaced by every day. Night swimming, remembering that night. September's coming soon. I'm pining for the moon. And what if there were two, side by side in orbit, round the fairest sun, the bright tide ever drum, cannot describe night swimming. You, I thought I knew you. You, I cannot judge. You, I thought you knew me. This one laughing quietly underneath my breath. Night swimming. Street light, a reminder. Night swimming deserves a quiet night. Deserves a quiet night. È esilarante, come dovreste vedere, quando sta per finire una traccia che stiamo praticamente facendo tutt'altro, ovviamente, perché è zona rossa. Sì, stavamo praticamente costruendo un muro qua a fianco, Lorenzo stava aggiustando l'altro computer, esatto. Tommaso stava provando l'Amleto. Perché esatto. L'Amleto? Lui è l'unica persona seria. Perché poi muore alla fine. Oh, non porta benissimo. Tutto dire. Questo è improvvisato, noi non lo diciamo mai, ma questo è il valore aggiunto di Zona Rossa. Non ci prepariamo un cazzo. Già. Quelle domande anche noi non sappiamo bene come farle. Infatti andiamo a prendere la persona che ci può spiegare tutto, perché dirige la baracca. Direttrice. Fa andare avanti quanto l'azienda, dirige. Paga Tommaso quanto Rossi, dirige, si inventa i nomi, i meme, ci manda gli audio. Fantastico, fantastico, lei è l'unica, la sola, è la versione femminile di Kenshiro, lei ti spappola se ti tocca, è nel punto giusto, fatta così. Da quando è entrata in redazione, basta, la Zona Rossa ha aperto il volo, ora la media, Set ha Sky, tutto ha aperto il volo, ha aperto il volo, ha chiuso la corrente elettrica e ha aperto... Io nel frattempo vi ricordo che se volete fare una donazione a un'associazione di volontariato che si chiama Dona dei Soldi a Tommaso Rossi, l'IBAN è ITM. Grazie all'attore Tommaso Rossi. La direttrice però si fa attendere, ma è giusto, la direttrice che dirigono hanno cose da fare, lei è impegnata, non come noi gozzovigliatori inutili. Io non metto giù finché non rispondo. Vai, vai, vai, chiamiamola per 16 ore e passiamo il tempo a fare monologhi su, non lo so. No, in realtà volevamo chiederle, secondo lei, quale fosse la differenza tra sentimenti e emozioni e poi l'abbiamo chiesto a Google. Adesso, niente, ha messo giù. Adesso Google risponderà con la voce di Guglielmo, che quella che è la differenza di riferimento. esatto, esatto. Zona rossa, tutto, esatto. Sono arrivato qui subito. Ci chiediamo la differenza tra emozioni e sentimenti. Utilizzate la chat Telegram della radio, Radio Zam, trattino basso chat, per scriverci quello che ne pensate. E Gulli, prego. Vorrei, sono appena arrivato, sono Giuliano Corradi, cugino di Guglielmo Corradi. Ciao Giuliano, benvenuto. Guglielmo non dice cose intelligenti dal 92 circa. Benvenuto, benvenuto. Stavo piangendo, l'ultima volta ho detto una cosa intelligente. Le emozioni sono guidate dagli eventi, mentre i sentimenti sono comportamenti appresi che sono di solito in letargo, fino a quando non vengono innescati da un evento esterno. Le emozioni ci dicono quello che ci piace e non ci piace. I sentimenti ci dicono come vivere. Questa è una cagata pazzesca. Questa è non è una definizione. Topolino. Ma poi che differenza c'è tra eventi e agenti che innescano altre cose? No, la questione certo è che se vai a prendere le citazioni di Veltroni. Allora, questa era bella. Un più per Tommaso Russi stasera mangia. Io tornerei. Esce da quel suo stato di povertà materiale. Io tornerei al buon vecchio Wikipedia, esatto, che ci dice che cos'è il sentimento e che cos'è l'emozione. In psicologia, con il termine sentimento, derivato dal latino sentire, percepire con i sensi, si intende uno stato d'animo, ovvero una condizione cognitiva affettiva che dura più a lungo delle emozioni e che presenta una minore incisività rispetto alle passioni. Per sentimento genericamente si indica ogni forma di affetto, sia quella soggettiva, cioè riguardante l'interiorità della propria individuale affettività, sia quella rivolta al mondo esterno. Quando il termine viene usato nel significato filosofico di senso, sentimento di sé, esprime la coscienza della propria esistenza come complesso di moti spirituali e corporei. Sì, l'ho letta, non ci ho capito un cazzo di niente, ma va bene così. E a questo punto Eleonora ci dice che sentiamo Google. No, Eleonora, da te chiediamo di più. Da te vogliamo che lo leggi dalla carta stampata. Cioè tu devi trovare un libro, qualcosa che tu l'avrai sicuramente, perché è una cultura devastante, avrai qualche libro. E quindi con qualcosa di cartaceo dici cosa comunque sono. Comunque, io una differenza che intuisco, sì, è che sentimento è qualcosa che percepisco e che quindi arriva dall'esterno. L'emozione probabilmente invece fa un movimento contrario. Ma allora, è interessante quello che dici, ma secondo me no, perché il sentimento, cioè, io invece penso che sia una cosa, mi ha fatto ridere quando abbiamo letto la prima citazione di Novella 2000, probabilmente. Ma raga, ma era una roba carina, a me non piaceva. No, cioè, non lo so, e devo riflettere su questa cosa, però mi ha fatto ridere un po' l'accadimento esterno, perché io provo emozioni verso qualcosa che sta accadendo e non verso qualcuno, mentre invece provo sentimenti verso qualcuno. Mi emoziono di qualcosa che qualcuno fa, ma non mi emoziono di quella persona, provo sentimenti per quella persona. Quando rabbia... io vado a ballare techno mi emoziono perché il contesto mi piace, la musica mi piace, l'amo, l'ambiente mi piace, quindi mi emoziona fare quell'azione lì, mentre invece non posso dire che sono innamorato della techno. Quindi un esempio di emozione è andare a ballare, andare al cinema, no, guardare le stelle, no. Forse no. Ah, un esempio di emozione. È un'azione quella. L'emozione che scaturisce. Perché forse emozionarsi è generico. Io mi emoziono genericamente per qualcuno. Risponde la segreteria e ovviamente telefonica. Puoi definirla se emozione positiva o emozione negativa. Occhio lì! Stavamo perdendo l'attore che ha fatto Michael Jackson da una sedia. È incredibile. Cadere da seduti non è facile. Non per niente, assolutamente. Chiediamo se i prossimi numeri ci sono. No, perché aspetta, il programma deve andare avanti. È senza Ricca. È solo Fede. Bravo, così hai detto chi chiamiamo. Io ho detto un Fede, può essere Federico, certo. Federica, bravo. Può essere la Fede. Chiamiamo la Fede, sì, la Fede. Chiaro. Aspetta, giusto. Intanto Spadre, Fede, la Fede. Attenzione. Zona Rossa va a prendere una fan. Questa è una fan che ha già calcato questi microfoni e ha già infuocato con la sua soave voce l'angolo di Zona Rossa. Ha dedicato un sacco di playlist a Zona Rossa e in questi giorni si è guadagnata le chiavi della radio. Già, perché funziona così: tu ci fai un po' di colonne sonore e poi hai le chiavi. Noi quindi abbiamo dato le chiavi a chiunque. Esatto, il mastro di chiavi che lunedì avete sentito durante To Do List, ovvero il Guglielmo qui davanti a me. Esatto. Eccoci. Io posso dire, attenzione, che non mi sono mai sentito più utile nella mia vita che mentre ti leggevo il telefono per fare questa cosa. Cioè ero proprio nel posto giusto, al momento giusto. Io sono, come dice Tommaso la settimana scorsa, un vecchio di merda che quando parla in radio non riesce a usare i telefoni. Ho già gli occhiali addosso. Bentornata su Zona Rossa, oh mio Dio! La chiamata che non volevo ricevere. Proprio quella! Quanto siamo bravi, cazzo. Sai come prenderci comunque, eh. Ciao ragazzi, guarda, io ogni volta che sento c'è Zona Rossa ho sempre paura di avere il telefono vicino. Brava, bravissima, bravissima. Però non rinnegare il fatto che sei venuta qua in presenza a mettere della sana e buona musica. Diciamolo. Hai ragione, hai ragione. Diciamolo. Abbiamo i microfoni Franco, DJ Franco per Delirio Italiano. È la cosa più colorata di Radio ZM che potete sentire, ma non vedere. Non si sa mai, prima o poi forse. Magari vedere. Impazziamo per queste grafiche bellissime by Lo Zizzo e vi ricordiamo che potete seguire i podcast dove se volete cucinare qualcosa di buono mettete questo podcast perché è fantastico, non quello di Zona Rossa. Ci sono, esatto. Cioè, c'è una bella ricetta di Natale, ma che strano comunque essere da questa parte, ragazzi. Sì, è Ascolta, non te la menare solo perché adesso fai la speaker radiofonica, cioè... Ascolta, voliamo basso. Ti presentiamo l'attore che abbiamo assunto per Zona Rossa. C'è una novità in questa parte di stagione. Per dimostrarti che è attore, ti leggerà un bigliettino dei Baci Perugini. E poi la domanda della puntata. Va bene. Chi mai può dar leggi agli amanti? L'amore è al di sopra di tutte le leggi. Grazie, è attore, è pagato bene, fa bene il suo lavoro. La scodella di latte era Noi difendiamo le arti sempre e comunque. Da un'altra parte però. Sempre l'attore ti introdurrà la domanda della puntata. Mia cara, l'argomento di questa puntata, insomma l'emozione che hai sentito più spesso. Quanto è Zona Rossa. Proprio sì. Era Pasolini. Chiaro, noi resumiamo. Pasolini di Buenos Aires. Ho vinto il montepremi. Sì, è una maglietta. No, è la maglietta di Lorenzo, quella che ha addosso adesso, è una maglietta bianca senza scritte, l'hai vinta. Tua. Sudata. Esatto. Ascolta, così, c'è così un robot dietro le spalle, stai tranquillo. Dici. Quindi aspetta, la domanda era... Qual è l'emozione che provi più spesso? Mamma mia, ragazzi. Dai. L'emozione che provo più spesso... Sì. Il radioismo in disinizio sono la morte. Più che tipo... emozione, io direi... cioè che mi sento affascinata da determinate la cose. Fascinazione. Adesso andiamo a fare una ricerca veloce. Intanto, se la senti, sì. Se vuoi raccontarci un momento in cui hai provato questa emozione, questo sentimento. Ma voi volete un momento che scegli tu, quello che vuoi. No, quello che vuoi, una cosa che hai voglia di raccontare in radio, ovviamente. Noi siamo induisti, non desideriamo. Come, scusa, c'è l'attore, puoi farla romantica, ma noi siamo romantici. Allora, è una cosa che è successa oggi, però è la terza volta che succede, ed è una cosa carina, perché io vado sempre in bici al lavoro. Ok. E c'è l'angolino di Parco Sempione in cui passo, è già tre volte in un mese che passo in quell'angolino esattamente quando c'è questa ragazza, non so quanto avrà, 40 anni, e ci guardiamo ogni volta ci sorridiamo come dire, sei tu. Anche allora, oggi. Ciao, ma che bello. Quindi questo, sì. E quindi sì. Ti ha affascinato. Le microdosi di LSD hai cominciato quest'anno? Un'ottima domanda, Lorenzo. Finalmente, ragazzi, da quest'anno ce l'ho fatta a farmeli finanziare. Prima dovevo pagare io, invece adesso mi finanziano per fare la Fondazione Prada. Mi sembra giusto, esatto. Mi sembra giusto e corretto. Se poi il risultato è dell'italiano, siamo solo che contenti. Comunque, sì. A livello di sostantivo femminile fascinazione, la Treccani ci presenta un secondo significato interessante che parte da questo aneddoto che ci hai raccontato brevemente. Procedimento perché si ottiene uno stato ipnotico o ipnoide, indotto con mezzi elementari di suggestione o di ipnotismo. Quindi sei fascinato da un pendolo che fa avanti e indietro, da destra e sinistra, dal per esempio. Pendolo della mia vita. O forse perché questa tipa ti sta facendo ipnotico. La macumba e ti sta... Esatto. Beh, ma voi non vi sentite mai affascinato? Cioè, non vi capita spesso? Quando guardo gli ecomostri di Milano. C'è un sentimento veramente... La Torre di Rozzano. La Torre Velasca. La Torre Velasca è un po' affascinazione e ipnotismo, sì. Vabbè, la Torre Velasca posso condividere. Vero, condivido. È uno dei è il palazzo più bello di Milano, è incredibile. Sì. E poi mi succede quando sono in mezzo immerso nella natura. Quello sì. Sì, ah, lì in un contesto molto rurale, dove non c'è inquinamento luminoso, dove non c'è il rumore del traffico, dove non c'è il cemento, dove c'è natura. Tu sciogli la natura e ti ci immergi, una grande piscina e piena di foglie. E continua a provare la fascinazione. Sei tutto ribagnato di questa natura presenza squagliata. In fascinazione, bravo, bravo. Sì, esatto. Un esatto. Piromane praticamente. È quello, fantastico, esatto. Fantastico. Va bene, noi abbiamo un finto programma da rispettare. A questo punto abbiamo detto fascinazione. Ringraziamo DJ Franco. Grazie Franco, ti dedichiamo una canzone che, guarda, non hai idea. Adesso la regia ci assisterà, torneremo nella nostra playlist della giornata. Radio ZM, grazie DJ Franco, mi raccomando. Franco! Buon Natale, oh, buone feste, sì, buon Capodanno. Franco! Oh Franco! Esattamente, proprio lui. Qual è la canzone? Ragazzi. Quella che stai puntando col mouse. Questa? No, quella sotto. Questa? Esattamente. Ringraziamo sempre Lady G per queste perle, perché è solo colei che mi ha aiutato durante la pausa caffè oggi pomeriggio, mentre mi riprendevo dalla giornata stupenda che ho avuto. Hathaway, What Is Love, tutta per voi. Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. La colonna sonora dei nostri primi limoni. Leonora raccoglie la sfida. Nell'emozione conosciamo questa passività di fronte ai limiti della mia vita. Scusate. stavolta torniamo in anticipo sulla canzone, che ringraziamo per averci disturbato in innumerevoli serate trash. Grazie mille. Lady G ci manda un messaggio in chat Telegram, vi ricordiamo Radio Zam trattino basso chat. Lady G sempre a vostra disposizione, vi amo, vi amo. Le emozioni e i sentimenti su Zona Rossa. Potremmo chiedere a Lady G di darci un tappeto musicale tutte le puntate, eh? Potremmo tornare un po' in attività, però non vogliamo farla scomodare. In realtà lei si palesa quando ne ha voglia, però ci ama, esatto. Abbiamo anche in realtà pensato, sempre con Lady G, alla puntata di gennaio, ma mi sfugge adesso. Sì. Le chiediamo se gentilmente ce la può mandare via Telegram, sì, del vocale famoso che è arrivato alla redazione di Zona Rossa con l'idea della puntata di gennaio, così la spoileriamo direttamente. Possiamo far andare il vocale? Possiamo far andare il vocale. Guglielmo è un genio, è incredibile. Lo so. Radio ZM 1953, mi raccomando, scrivete alla chat Telegram Radio Zam trattino basso chat e non ai nostri numeri personali. Ci siamo stufati di ricevere messaggi belli solo ai nostri numeri personali. Scrivete alla radio perché rimarrà negli annali. Ci siamo stufati di noi stessi. Non posso mandarlo perché avendo io frantumato il mio telefono ho perso tutte le memorie. Quindi bisogna mandarlo dal tuo. Ma bisogna mandarlo dal mio, ma prima andiamo a prendere veloce altre persone. Alziamo il tappeto musicale con Sean Prince. Arrivo subito e via. Di qua, poi vado di qua a prendere il numero. Non lascerò che il silenzio prenda. No, perché intanto l'attore leggerà un'altra delle nostre quote del giorno. Vada, lega. Questa è una quote di Khalil Gibran. Chi è? Chi è? È uno che giocava a pallone. Pallone. Dove gioca? Centrocampista di sbattimento del Foggia. No, del Bitonto. Squadrone il Bitonto. Squadrone. Ci abbiamo quasi vinto la Coppa Tavolier della Sia l'amore ad indicarti il cammino. Ma è incredibile. È veramente attore. Vedete Gassman quando legge l'elenco della spesa? Esatto, di uguale. Più. Pur con Gassman ci giocavamo io, Gassman. Però lui ha vinto un taglier delle Puglie. Che E poi ci regalato il poster di Zeman con Lou Reed. No. No, cosa è successo? Niente. Secondo me possiamo chiamare mia nonna che è di Cirignola e non parla italiano, parla solo dialetto. Secondo me ce la fate voi due, siete bravi. Più di me sicuramente. Cosa cavolo succede qui? Va bene, allora questo è quello che ho provato io per 9 mesi. Avere un telefono ciambraccone che non funziona, non puoi fare le cose che vuoi fare. Bah, sì, cioè, boh, nel senso. Eccoci qua. Dove sta andando? L'attore se ne sta andando, si ribella. Stavo facendo uno scherzo. No, ma veramente? Vabbè, ragazzi, ma state registrando? Aspetta, un momento. Cioè, è la radio. Ah, no, Madonna santa, è impegnata. Niente. Guglielmo ha fatto veramente zona rossa, ha chiamato 3 volte una persona che gli ha scritto solo ora che è impegnata. Tra l'altro, vogliamo salutare Paola e Mino che l'ultima volta se ne sono defilati così, poi mi hanno mandato una foto insieme. E Mino, io ho detto Mino perché lo chiamo anche Mino ogni tanto, sì. Mimo libero sempre, comunque. Mimo libero. Mi hanno mandato una foto in cui sono insieme vicini Pucci Pucci, quindi evidentemente Zona Rossa non ha fatto incazzare nessuno quella sera. Madonna, che a livello astronomico. Stiamo chiamando una persona che ci ha suggerito delle cose su Telegram a proposito di sentimenti e relazioni. Buonasera Eleonora. Ma buonasera. Con la bocca piena, giustamente, perché è ora di cena. Sono nel mezzo dell'insalata. Perfetto. Momento migliore di questo per Zona Rossa io non lo troverei. Zona Rossa fresca di stagione. Nel mezzo dell'insalata. Siamo croccanti. Siamo croccantissimi. Ogni tanto morbidissimi, tanto croccantissimi. C'era l'attore Tommaso Russo che sta dicendo delle cose in sottofondo. Dica pure quello che stava dicendo. Nel mezzo del cammin dell'insalata mi ritrovai nella Zona Rossa che era andata. Madonna! Questa è la citazione della puntata. È attore Tommaso Russi, ma qui comunque ci dicono. Io farei commentare a un pugliese vero il pugliese. Oddio, ma è lì vicino il pugliese vero. Lui è Cerignola, io di Bitonto. Una bella gara. Eleonora, dici, tanto sai già tutto, dai. No, più che altro aspetta, leggiamo cosa ci ha scritto Eleonora. Eleonora ci ha scritto: nell'emozione riconosciamo la nostra passività di fronte agli eventi ingovernati della vita. Lo scrive Marta Nussbaum. Sì, l'intelligenza delle emozioni. Ho fatto il passo più lungo della gamba, perché in realtà io ho un vago ricordo della differenza fra emozioni e sentimenti. Ok. Speravo che voi mi chiariste meglio. Siamo qua apposta per non farlo. Esatto. Dici cos'è che dici la tua baguette. Confondiamoci le idee. Ma allora, se le emozioni hanno a che fare con qualcosa che, in cui tu rispondi a ciò che ti succede intorno. Invece il sentimento è un po' più complicato, però non saprei dare una definizione, tipo il sentimento di appartenenza, il sentimento religioso. È interessante. Queste io intanto robe qua sono complesse. Intanto mentre l'attore e il regista trafficano sul computer, io mi sto continuando a fare i miei voli pindarici. Aggiungo, se hai sentito quello che ho fantasticato prima, l'hai sentito? No, te lo ripeto. Hai sentito tutto. Cose che allora andiamo avanti. Esatto, perché mi hai fatto venire in mente che in realtà l'emozione appunto è più collegata al qui ed ora, nel senso che quando sei a casa pensi al sentimento che provi verso determinate cose, l'emozione invece ti accade nel momento in cui accade. È corretto secondo te? Accade, ma molto. Perché io mi emoziono quando sono a un concerto, quando anche quando passo del tempo con una determinata persona, però per esempio quel momento lì quando poi finisce, termina e torno a casa, vado in un altro posto, se ripenso a quei momenti mi emoziono, ma allo stesso tempo provo dei sentimenti. Allora te lo elabori, forse sono corrisposti emozioni e sentimenti. Ma infatti io devo dire che dopo aver sparato la mia cosa in chat sono subito andata anch'io su Google. Grazie Google. E da qualche parte c'è scritto che le emozioni hanno a che fare col sistema limbico. Voi ci spiegherete cos'è. Chiaramente. Invece, abbiamo assunto un attore apposta. Esatto. Esatto. E invece il sentimento con la parte del cervello, quella razionale. Quindi in qualche modo il sentimento viene dopo ed elabora. Ok, quindi il sentimento è l'elaborazione di un'emozione, probabilmente. Che era tipo la definizione che voi dite di novella 2000 che abbiamo letto all'inizio. Però va bene, ignoratemi, sono regista, ignoratemi. Se non hai credibilità, mica è colpa nostra. È vero. Però, ok, ora, noi ti ringraziamo per l'aiuto al ragionamento, però adesso ti torchiamo un pochino, esatto. Nel senso che... Esatto, no, scusatemi, no, non volevo interromperti, volevo dire una cagata, naturalmente. Cioè, il sistema limbico è quello che usi per giocare al limbo. È quello che ti permette di stare in equilibrio, vero o no? Tommaso, è stato un piacere, buona serata. Ciao, grazie. È stato bello, facciamo la musica, arrivederci, grazie. Dai, secondo me è una delle più belle battute che ho fatto tipo negli ultimi 30 anni. Wow, quando sono nato. Ma infatti ho i brividi, ho un sentimento... Brividi abbattibili. Prego, attore Tommaso Russi, illustri la domanda di stasera. Allora, la domanda di questa sera è... Qual è l'emozione o sentimento che provi più spesso? È attore, è indiscutibile. È indiscutibile. Avendo sentito la puntata fin dall'inizio, mi sono preparata. Madonna, che quindi non risponderai ragazzi. Le altre risposte. Perché? Quindi la rabbia. No, è l'imbarazzo. Imbarazzo. Attenzione. È l'imbarazzo. Perché in realtà sono una persona introversa. Va bene. Davanti a me ride, però. Va bene. Ah, è attore, no, non Vito è ride. Ah, Vito ride. Vito ride. Ciao Vito, c'è Vito. Vito, ciao Vito. No. Cosa è successo? No, mi imbarazzo spesso. Okay. Però devi raccontarci un episodio adesso. Esatto. Il primo che ti viene in mente. All'ultima assemblea. Attenzione. No, la penultima. Collochiamo l'assemblea di Zami lunedì sera. Che facciamo? Esatto. Tutti lunedì sera. Esatto. Salutiamo la questura di Milano. Salutiamo. Lunedì sera, soprattutto. Ma no, ma la facciamo online. Sì, no, beh, certo. Però. Vabbè, quindi. Esatto, dicevamo. Anche ti ho detto una cosa. Poi dopo non ero sicura che fosse stata compresa. E mi sono imbarazzata. Ok. A voi non succede mai? Assolutamente sì. Sempre. Molto. È la prima volta che qualcuno ci chiede effettivamente se a noi capitano delle emozioni. Grazie Eleonora, no? Perché tutti gli altri hanno parlato delle siamo loro. Siamo solo dei mezzi busti. Siamo soltanto anche delle persone che chiamano da una radio, ovviamente. Che più o meno è. Più o meno è quello, certo. Però abbiamo ricevuto anche un'altra telefonata intanto, quindi Eleonora, grazie. E partite bellissimo... da voi ragazzi, partiamo da noi, ma per questo, andare lontano, per andare lontano, per tirarci gli schiaffi proprio in faccia, esatto. Guardarci ciao allo specchio e dire io oggi mi tiro gli schiaffi in faccia. Salutiamo anche Vito. Ciao, ciao Vito. La prossima volta chiamiamo lui, non chiamiamo te. Trackback di questa. Comunque mi raccomando, ciao. Se ti trovi ciao in Spagna non dire che sei imbarazzata, perché pensano che tu sia incinta. È una vero, chiamata dietro attenzione, pure multilinguista, è incredibile. Tutto, lui è attore ma è molto di più. Molto di più. Adesso chiamiamo una delle persone pica, che... Pica, pica, pica. Bentornato su Zona Rossa, carissimo. Ecco, me l'aspettavo, lo sapevo. Ciao, lo Francesco. Sentivo dentro. Te lo sentivi? Meno male, perché non ti me sei dimenticato. Sentivo, sì, non sì. Chiamiamo Francesco da un sacco di tempo. Vero. Ed è veramente un piacere. Vero. E sappiamo, anche per me, sappiamo che per, nascondiglio segreto. Per via di corridoio ci è stato detto che la nostra direttrice di Zona Rossa, la nuova direttrice Anita, ha fatto un sondaggio su Instagram a cui tu hai risposto. Maledetto, e ora ti veniamo a prendere. Okay. Il sondaggio in questione faceva una domanda. Non ricordo niente del genere. Ti rinfresco la memoria, perché sappiamo che Fra con Instagram c'è un rapporto mica da ridere, mica da ridere. Cose. Seguitelo, sì, perché sì, è veramente quello che viene chiamato. Ero distratto, scusa. Ecco, attore influencer. Lui è l'influencer. L'influencer. La domanda in questione te la fa l'attore della programma. L'attore della programma. Della programma. Me ne danno fare. Che ci vuole fare? Con la nonna si dice Rignola. La nonna dice Rignola, a posto siamo. Allora la domanda è: qual è il sentimento che provi più spesso? O l'emozione? Mm. A seconda di come ti va, come ti senti? Una tristezza che mi svuota l'animo di ogni forza. Ma un applauso, grazie a quest'uomo, mille. Grazie! Nessuno aveva ancora toccato il tema della tristezza, ma noi siamo qua per te. Ora devi raccontarci. Sai cosa? Servirebbe un po' più di rabbia. No, no, già usato, già usato. Una persona che conosci, tra l'altro, finita, l'ha detto, finita. Però non ti diremo chi. Esatto. Non ti diremo chi, vatti ad ascoltare il podcast. Rabbia finita. Ora esatto. Ci devi raccontare un momento di tristezza che vuoi condividere con Zona Rossa. Fatemi pensare, sto pensando a qualcosa di simbolico, ma la mia mente non ce la fa. No, ma nemmeno la nostra. Quella volta all'ospedale, Francesco, quella volta all'ospedale. Quella volta all'ospedale? No, scherzavo, non lo so. Detto è attore, attore. Perché ci sono state anche delle volte all'ospedale, più volte. Ecco, appunto, evitiamo. Ero io che avevo alzato troppo il gomito. Per salutare un amico da lontano. O per fare il saluto romano. Festa tram, esattamente. Furbacchione, lo sappiamo. Un saluto a Romano Prodi. Esatto. Dici. Cambiate. Dici. No, un momento particolarmente triste per me è stato quando sono entrato nel mondo degli adulti e ho dovuto interfacciarmi con la burocrazia e mi orribile. Sono reso conto che non ci sarebbe stato più qualcun altro a iscrivermi all'università al posto mio. Oh. E appunto ho conosciuto la burocrazia, è stato quello uno dei momenti più tristi. Hai scoperto quel grigiore che pure tiene in piedi questo mondo. Esatto. Con l'ordine quelle, di scartoffie, quelle fondamenta orribili. Esatto. Cioè, che la tua vita è tutta scritta su dei fogli. E se non ci sono quei fogli, la tua vita non esiste. Esattamente. Siamo fatti della stessa sostanza delle scartoffie. Bravo, attore. Hai sopperito alla gaffe di prima, che non ti ricordavi, non eri sul pezzo. Complimenti. Francesco, bravo. Quanto è attore Tommaso Russi? Non lo sappiamo, tu lo sai? Comunque, se hai bisogno di una mano per le scartoffie, guardi, ci siamo noi. Datemi un metro, una misura, vi dico, da 1 a 10. Possiamo fare una rubrica in cui aiutiamo a fare le scartoffie, Francesco, durante il mercoledì sera a Zona Rossa. Dai, facciamolo. Sarebbe interessantissimo. Beh, io volentieri in realtà. Allora, ti dedichiamo una canzone sulla tristezza che proprio, guarda, te la sogni, veramente te la sogni. E con questo ti salutiamo e con l'invito a richiamarti. E io adesso mi metto ad ascoltare la radio. Dai però. Dai ragazzi. Allora, male. Farabutto. Va bene, cosa mettiamo? Ciao, mettiamo. Ciao, un bacione ragazzi. Ciao Fra. Sai che sulla tristezza non ero pronto, perché oggi era la cosa che meno sentivo del giorno. Però freghiamocene. No, aspetta, mettiamo questa, che secondo me forse è una che ho messo io. Qualcosina. Ma secondo me un pochino qualcosina sulla tristezza lo dice. Quindi salutiamo Rino, benvenuto. Ciao, bentornato, Rino. Grazie mille. L'attore è una sola. È calabrese il prossimo, è di un calabrese la prossima canzone. Stavo dicendo una cagata razzista, come no, tu no, sai. No, bravo, razzista, bravo, sul no. Commissario della Salute. Cercavo un ponte. È andata, alla prossima. Ciao. D'un veliero che ti portino su isole dal cielo più vero. A te che non sopporti la pazienza, abbandonarti alla più sfrenata continenza. A te che hai progettato un antifurto sicuro. A te che lotti sempre contro il muro. E quando la tua mente prende il volo, ti accorgi che sei rimasto solo. Thank you. A te che ascolti il mio disco, forse sorridendo. Giuro che la stessa rabbia sto vivendo. Siamo sulla stessa barca, io e te. Ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti. A te che odi politici imbrillanti nati che minimizzano i loro reati, disposti a mandar tutto a puttana pur di salvarsi la dignità mondana. A te che non ami i servi di partito che ti chiedono il voto, un voto pulito. Partono tutti incendiari e fieri, ma quando arrivano sono tutti pompieri. A te che ascolti il mio disco forse sorridendo. Giuro che la stessa rabbia sto vivendo. Siamo sulla stessa barca, io e te. Wow! Ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti. Ce l'ha coi corpi? Perché ce l'ha coi corpi? Zona rossa diventa terapeutico. Beh, esatto. Anche per gli stessi speaker. Esatto, perché la questione è che continuare a utilizzare questa accezione di corpi come se prima non avessimo la percezione delle persone di fianco a noi fa venire in mente che ma cosa facevi 6 mesi prima di avere questo termine? Pensavi che le persone non si toccassero? Ma non avevi concetto? Allora io da quando ho 4 anni che parlo di corpi. Ma infatti cioè, il corpo non esisteva. Ma no, la questione è che certo che esisteva, ma la questione è che fare con questo continuo riferimento all'utilizzo del corpo, fare il corpo, ma cioè non so come dire, mi sembra un po' relaxato su una cosa che è sempre esistita. Allora, è vero, tu la stai sentendo così tanto perché sei tu che prima non avevi, perché c'è appena stata una negazione del... Ma forse assolutamente sì, in realtà la sua vita, il tempo che viviamo è uno dei tempi più alti in cui l'arte performativa e l'arte di utilizzo del corpo è arrivata ai massimi espressioni, e anche troppe in realtà, perché c'è Scasaduca e tutto, però effettivamente nella retorica contemporanea ritroviamo la parola del corpo utilizzata tantissimo. Ma perché si è sdoganata una filosofia di neanche 50 anni fa, quindi Foucault, l'uso dei piaceri, eccetera, che ha permesso un dilagare del linguaggio. È soltanto termini di linguaggio, penso che le persone che lo utilizzino comunque abbiano avuto già consapevolezza del corpo prima utilizzare la parola. Arriviamo da una cultura che l'ha sempre negato, il corpo, il piacere, anche soprattutto qua dove siamo noi. Io lo rivendico fino alla fine, perché stavamo elogiando la Treccani, perché ci sono delle cose che hanno toccato un po' gli stessi argomenti che abbiamo fatto durante la puntata, e leggo testè: emozione, processo interiore suscitato da un evento, stimolo rilevante per gli interessi dell'individuo. La presenza di un'emozione si accompagna a esperienze soggettive, e qui Guglielmo ha posto l'accento, cioè sentimenti tra parentesi, cambiamenti fisiologici e ancora tra parentesi, che è una cosa che ha destato la mia attenzione, risposte periferiche regolate dal sistema nervoso autonomo, reazioni ormonali ed elettrocorticali. Quindi nel momento in cui io prima facevo l'esempio della musica molto forte, piacevole, perché per me è piacevole, in quel caso c'è dentro il sistema nervoso autonomo e le reazioni ormonali, che sono quelle appunto suscitate dai corpi, e lì si è alzata la lampadina, si è accesa la lampadina. Andiamo avanti con questa puntata strepitosa di Zona Rossa. Espressivi. Comportamenti espressivi. È attore. Esatto. Lui ne sa qualcosa di corpi. Va bene, bisogna chiamare quello lì. Bisogna chiamare quello lì. Che è quello là? È questo nome qua. È questo nome qua. Ma l'abbiamo appena detto. L'abbiamo appena detto, assolutamente. Per piombare nella Puglia più profonda. Ha risposto al sondaggio. E ora vogliamo sapere esattamente le sue parole. Quindi vediamo come ci risponde al telefono, sapendo che siamo qua. Meglio. Lui lo sa che siamo qua. Lui vuole sapere le nostre parole. Pronto, Davide. Mi senti? Ciao, bentornato Davide. A Zona Rossa. Che sorpresa! Miglia, che arrabbiata! Dovevate cambiare il nome della puntata, doveva essere Zona Rossa, cazzo. Ah, è vero, c'è stato arrivato un suggerimento che dobbiamo cambiare il nome della trasmissione, che è Zola Rossa. Ah, quando da gennaio in poi saremo Zola Rossa. Esattamente quando stai ordinando la pizza, Gulli. Sì, perché si è sentito Zola Rossa? Si è sentito Zola Rossa. Ma com'è possibile? È una Zola Rossa e quattro formaggi. Zola Rossa. Ma come ho fatto? Allora, carissimo, il tuo corpo, esatto. Carissimo meme, abbiamo l'attore Tommaso Russi che ti farà la domanda della puntata. Cazzo. Perché noi sappiamo che tu hai già risposto nelle storie Instagram. Ciao, Tommy, ti seguo da quando ero piccolo, cazzo. Oh, sì! Anche lui giocava a pallone con Pasolini. Esatto, uno squadrone dal cielo. Pasolini! Cioè, con noi è Zona Rossa, meme è con Zona lui Rossa. È qua. Insieme a Mike. Vuoi fare qualcosa? Allora, no, sì, scusate, mi sono distratto. Ti paghiamo il latte rancido per cosa? Guarda che c'ho anche da fare, sto lavorando. Sono quanto da 4 bambini. Bravo, bravo meme. Qual è l'emozione? C'ho 2 filippini a carico, cazzo. Ciao Fergi. Ciao Kiko. Qual è l'emozione che provi più spesso? Ah. Cosa è successo? Presidente, mi sentite? Qual è il futuro dei giovani? Ragazzi, che è successo? Oh, ma non ci senti, cazzo? Ora ti sentiamo, sei tornato. Sentiamo. Allora, praticamente ti stavo dicendo, prima ero di sotto in sala con Gigi che sentivo appunto la diretta e appena fatta sta domanda ci siamo guardati negli occhi e abbiamo detto l'odio, porco Dio. Vai, però è stato già risposto. Spiace, sta già usato. L'odio. Ce ne vuole un'altra. Penso l'odio. Ce ne vuole un'altra perché hanno già risposto l'odio. L'odio? Sì. È già stata risposta. Abbiamo messo la colonna sonora del film. Siamo scontati. La pensiamo tutti alla stessa maniera, mi sa, su questo. Dai, no, che cazzo devo mettere allora? Veramente non mi consigliatemi qualcosa, chiedo l'aiuto da casa. Quando suoni, quando suoni qualcosa, metti i dischi, l'odio. Esatto, l'odio. Oggi hai messo del reggae fantastico a Zama, hai messo del soul meraviglioso e quando ascoltavi cosa pensavi, cosa trovavi in quella cosa musica? Forse a volte un po' di malinconia, ecco. Bellissimo, malinconia. Fantastico. Questa è nuova? Sì? Questa è nuova e te la sei presa tutta per te. Fantastico. Vai, questa me la tengo, E adesso ci devi? Ci devi raccontare un momento in cui hai provato malinconia. Esattamente. Un momento in cui hai provato questo sentimento. Questo sentimento di saudade. Ma ti dico il più recente. Vai. Semplicemente abbiamo venduto casa nostra nel nostro quartiere qui a Milano Sud storico, in cui sono stati per 25 anni. E niente, ripassarci sotto senza salire con le scale del cazzo, litigare con tutti i condomini, mi fa salire un po' di malinconia, ecco, di un bel periodo della mia vita, cioè circa tutta la mia vita. E mo come fai col tatuaggio 20-100? No, beh, io sono sempre 2141 alla fine, mi sono spostato di poco. Non può uscire da lì, c'è la dogana. Però, c'è documenti no, per ecco, allora io posso cambiare via, ma non posso cambiare capo. Grande, grande! Le buste sempre li prende, no? Scusate, la frase che. No, questore, cancello. Questo cazzo, però, dopo ci becchiamo, dai. Va bene, no. va bene. Grazie, dai. Meme, grazie mille, ciao, è stato bellissimo. Buona sera. 77, seguiteci! Sempre, olè! È bellissimo, facciamo pubblicità ad altri. Va bene, tu manipola tutto il telefono. Va bene, prima abbiamo letto la definizione di emozione. Adesso prenderai un secondo per leggere quella di sentimento. Intanto io vado a recuperare un vinile per il momento meme. Vai. Per la malinconia, vai. Arrivo subito. Vai. Rappresentazione cosciente di eventi emotivamente significativi. E quindi percezione, esperienza soggettiva delle emozioni. Nel pensiero antico il sentimento non viene riconosciuto come sfera autonoma o come categoria filosofica. La nozione di sentimento tende a identificarsi piuttosto con quella di emozione o di affetto. Segue parola in greco che io non immagino nemmeno come si possa leggere, intesi come consapevolezza del piacere e del dolore, ossia del carattere piacevole o spiacevole di un evento rilevante per il benessere dell'individuo, i suoi motivi, i suoi scopi principali. Solo con l'analisi e la definizione della sfera della soggettività umana, inaugurata dal pensiero moderno, la nozione di sentimento comincia a precisarsi e ad acquisire una sua specificità concettuale, quale categoria per ordinare e classificare le affezioni dell'anima. Il sentimento viene così progressivamente riconosciuto come una delle dimensioni fondamentali della vita spirituale, come una delle facoltà o dei poteri dello spirito assieme alla coscienza e alla volontà. E quindi a parole tue? A parole mie, sai che io ho appreso mentre leggevo e mentre leggevo riflettevo su questa cosa, che io sono capace di leggere benissimo e non mi ricordo che cosa cazzo ho letto, non so niente, raga. Però ho letto, è questo che succede, si legge e si capisce. Non ho assolutamente capisce. Nulla di quello che ho letto, non so dire niente, ma bisogna prendere del tempo, perché qui stanno scaricando un vinile e quindi chiederò all'attore Tommaso Russi, che ha capito, di dirmi che cosa ho detto. Allora, se qua dice rappresentazione cosciente, vuol sì. dire che è un qualcosa che tu hai elaborato. Sì. Prima, infatti, avevano detto che emozione è una cosa, qualcuno che citava, ti emerge. Emozione è un qualcosa che c'è, che poi viene tradotto in un sentimento. Okay. Quindi a me questo viene da dire. Poi, secondo me, quella parola in greco che dicevi si legge karagounis. Caragunis. Che salutiamo, viva la Grecia degli europei del 2004. Centrocampista Cirignola. Il grande numero 10. Certo, ciao Caragounis, è bello, che è bello averti qui con noi. Sempre. Va bene, prossimo numero direi di chiamare un altro redattore. Proverei anche a richiamare la direttrice, così che magari proviamo a richiamarla, intanto dai, però parliamo dai. Perché tanto squillerà a vuoto sicuramente. Quindi la differenza tra emozione e sentimento stiamo iniziando a scoprirla, vorremmo provare a ricordare altri programmi che fanno cose più serie di noi, perché mi sto rendendo conto che in questo programma stiamo anche facendo una cosa quasi seria, cioè stiamo scoprendo la differenza ma tra sentimento e emozione. Ma se stiamo parlando cazzate da un'ora e mezza, ragione, pure tu. Ma ho sbagliato, figura. Scusa. Non esageriamo a gonfiarci... Un minuto di pernacchi nel microfono. Esatto. Un minuto di Tommaso Russi che pensa a quello a cui sta provando mentre fa zona rossa. C'è un elicottero. C'è un In tutto questo abbiamo perso almeno l'unico ascoltatore che ci stava sentendo, probabilmente anche, i nostri compagni e le nostre compagne hanno detto basta, basta. E comunque ho fatto la cosa più Covid peggio dell'universo. La direttrice è una persona impegnata, la cambieremo direttrice probabilmente. Bastarda, infame, e andremo a chiamare il vero grafico, perché quello di oggi non si poteva vedere. Mercoledì, giorno delle poste, ma attenzione, vedremo oggi cosa ha spedito, cosa non ha spedito, cosa riesce a dirci. Comunque ci ha suggerito il meme. Il meme da fare per la puntata di oggi ce l'ha suggerito lui, si deve prendere le sue responsabilità. Infatti è piaciuto un sacco, esatto, tra l'altro. Esatto, quanti like ha macinato? Guarda. Cifra, proprio, sembrava un compressore. Non si possono contare, sono troppi. Esatto. Poi sfiguriamo e poi iniziamo a fare le gare con chi prende più like, chi prende meno like. Già ci sono troppe competizioni già in porta giro. Porta c'è qualcuno di molto competitivo. Cioè, sì, sì. Emilio mi ha chiamato l'altra sera quando abbiamo finito. Cosa t'ho detto? E mi ha detto che non mi devo permettere di avere una comportazione così. Un po' lo capisco. Un po' locazione. Questo sarà sicuramente in fila alle poste un'altra volta. Madonna, pensa che angoscia stare in fila alle poste. Poi dobbiamo chiedergli il motivo per cui ha detto che sarebbe venuto in presenza. Ascolta, ma tu perché avevi detto che saresti venuto in presenza? Tu non sei mica a Milano. Maledetto. Io sono a Milano. Ma cosa dici? Ma sì, ha detto che andavi in Bovisa dopo. Oh mio Dio. Ma siamo in diretta. Sì, con le DJ. Minchia. Non ci credo, c'è Lady J su zona rossa. Oddio. Questa è una cosa incredibile. Un'altra carrambata. Grazie Francesco, puoi passarci Jessica. Ciao Francesco, è stato bello. Grazie. Ciao Jessica. Come stai Jessica? Cosa fai Jessica? Ciao belloni. Francesco, puoi fare silenzio per favore, non sentiamo Jessica. Dicevi Jessica? Volevo salutarvi. Come state? E noi vogliamo salutare te. Molto bene, grazie. Adesso ti parliamo tramite un attore che ti introdurrà alla puntata di oggi, alle domande che stiamo facendo oggi. Praticamente. Perfetto. Stiamo indagando il campo del sentimento e dell'emozione. E oh quindi... Tu ne sai qualcosa perché tu susciti emozione. Tu lavori, il tuo lavoro è suscitare emozione. Niente. Sta facendo è finta. Incredibile. Ma quanto è brava. Ma veramente. Sembra quasi che lo faccia apposta quando vuole metterci una telefonata sconveniente. Apprezziamo l'impegno, però. Maledetto. non sfuggirai a questa cosa, però noi tiriamo fuori la domanda, così non può più, esatto, tiriamo fuori la domanda: qual è il sentimento o l'emozione che provi più spesso? Il benessere. Quello è il diavoletto sulla spalla destra. Questo è il benessere. Ma benessere di cosa? In che senso? L'altro è... Jessica, dici. Esattamente quello è il punto. Jessica, dici, non far parlare quella brutta persona che è di fianco. Mi sta chiamando Mr. Benessere. Devo mettervi giù. Ciao. No. Sta chiamando Mr. Benessere. Sta dicendo? Cosa sta dicendo? Sono ancora con le... No. Veramente. Questa la paga davvero. Ma ragazzi, ma richiamiamo, insomma, non esiste. Immediatamente. Ma non esiste. Immediatamente. Cioè, cosa sta facendo? Tommaso. Non c'è che mal cambia la stasera. Sediti sul divanetto. No, il divanetto. Ma non lo so, troppo lounge. Troppo lounge. Cioè, non sta rispondendo veramente? No, c'è Jessica che è piegata per terra a ridere. Gli stacco tutte le matite. Cioè, non disegna più un cazzo, gli rompo la rotellina. Oh, dove sei? Ma siamo qua. Siamo tornati. Ti mettiamo la dinamite sotto casa, anche se non è casa tua, Francesco. È stato molto zona rossa metterci giù il telefono. Fai il bravo, esatto, vero? È stato molto zona rossa. Comodate un terzo ingombrante comunque, se mettete lì anche sotto casa. Attenzione, vedremo. Jessica, stiamo aspettando la tua risposta alla domanda, Jessica. Esatto. La risposta alla domanda è che non mi ricordo la domanda. Tommaso, per favore, fai quello per cui sei pagato. Poco. Qual è? Allora la faccio. Vai. Jessica. Mi tocca il braccio. Qual è l'emozione che provi più spesso? Sono molto emozionato anch'io. Devo pensare... Vai. Detto così, l'inquietudine. È simpatico quel ragazzo lì, veramente. È simpatico. La perturbanza. Dovresti fare un meme. È una domanda veramente difficile, ragazzi. Comunque, guarda che le persone hanno risposto in 4 secondi. Sì. La media. No, per me non è così facile. Io sono abbastanza sicuro che mi ha risposto tipo una cosa come voglia di cazzo, una roba del genere. Attenzione. Non ho capito. Che meme ha risposto una cosa tipo voglia di cazzo. Come fai a sapere che avremmo chiamato meme? Stavo, è vero, ascoltando, stavi ascoltando la radio per caso? Ma va. No, se no avrebbe detto la roba giusta. Questa cosa è incredibile. Esatto, infatti. O forse conosce molto bene meme. Jessica, non ti defilare molto. Esatto, furbetta. Abbiamo capito su, che stai arrampicando sui vetri, ma ti riesce molto male, quindi per favore. Ma non c'è la seconda domanda. C'è la seconda domanda. Il sentimento che provavi più spesso quando lavoravi con Dario Fo. Ma che cuoricino, è incredibile. Lo so, questo lo so. Vai. L'odio. Ma mi dispiace, ma è stato già detto. Non si può. Te ne tocca un altro. Ho capito, ma devo pure dire le cose che non sono già state dette. Mi dispiace, ma zona rossa è così, senza senso. Già, smodatamente senza senso. Allora, con Dario forse un po' di orgoglio, ma non mio, ma nel senso che era proprio bello star con lui. Bene. Mi faceva un po' di orgoglio questa cosa. Hai risposto alla domanda, anche alla terza domanda, che era raccontaci un'esperienza, e quindi è questa qua. Cosa fretta c'hai, Francesco? Adesso dobbiamo parlare del tuo meme, Francesco. Dobbiamo parlare del meme che hai fatto. Tu questa cosa ti seguirà fino nella tomba. Maledetto grafico dei miei stivali. Lo sappiamo che li fai. Esatto. E vieni pagato pure. Già. Sotto commissione per i poteri grossi. I poteri grossi soprattutto. Grossi. I poteri grossi. Vai. Cosa, scusa? Aia. Posso farvi una domanda? Se, oltre a questa, se vuoi farne un'altra, prego. Ah, tuo rischio e pericolo. Ma io non ho fatto domande ancora. Già. Sì, ti ha chiesto se puoi fare una domanda, Grazie, è stato bello, buona serata. Ciao a tutti, ciao. No, raga, è difficilissimo, non so cosa ce la fa. Cosa state bevendo? Del disinfettante. Esatto. Abbiamo un Dextal. Possiamo fare la foto? La puntata sull'ozio era settimana scorsa, se ve la siete persa c'è il podcast. Oggi neanche l'acqua abbiamo. E nemmeno le lacrime per piangere. Va bene, grazie mille. In vostro onore, anzi in onore di Francesco, che comunque vogliamo bene, mettiamo una chicca, veramente una cosa meravigliosa. Che ci rende orgogliosi. Attenzione, è tornato qualcuno a trovarci. Attenzione, bellissimo. La sorella ci deve parlare al microfono. È arrivata la sorella. Venga pure. Ragazzi, grazie. Avrà un nome, non possiamo liberare. Buona serata. Ciao Francesca. Francesca. Che cazzo è Francesca? Ciao Jessico. Jessica, ascoltate la radio. Ciao. Prego. Sei presenti? Lavinia, piacere. Se ciao Lavinia. Se parli dalla distanza si sente solo così poco. Così si sente? Sì. Molto meglio. Okay. Lavinia. Ciao Lavinia, ti piace la radio? Moltissimo. Vero, è bella, assolutamente. Sai che la radio è femmina? Quindi... Scusa, non ho capito. No, vai, sì, hai ragione. Concludi. Lui è l'attore del programma. Lui. Ma sai che la radio è femmina. Ma comunque c'era qualcuno che ci diceva che tu avevi avuto una pessima idea, tipo iniziare a fare parte della Brigata di Solidarietà Popolare Milano Sud. Verissimo, conferma. Cioè, ti rendi conto della follia che stai facendo? Guarda chi è di fianco. Cioè, guarda chi è di fronte, più che altro. Carino. Beh, allora se lo dice al microfono è meglio. Marmellate. Faremo anche le marmellate. Va bene. Non c'è problema. Va bene, molto bello, è stato molto piacevole. Tornate più spesso. Tu mi raccomando, solo tu. Quando siamo noi e fai vedere la radio, sì, disturbare i programmi in diretta è una cosa tipica di Travassa. Hai capito? Bravissima. Tutto. Ciao, buon Natale a te. Allora, abbiamo qualcosa per la prossima rubrica è come i cuccaggi di Lorenzo. Ma veramente? Non è vero. Lo sai che la radio è I corpi. Era per mettere proprio oggi. Va bene, Zona Rossa è una radio femmina. Perché? Ma questo questo è motivo d'orgoglio. Questa ragazzi è una bomba atomica. Ho spento i microfoni a casaccio. Barbero remixato, raga. Prepariatevi a sdraiarvi. Questa gente che si cominciarono a chiamare i ciò, in piazza cominciano ad arrivare gli operai, i lavoranti, i battilana, come dicono loro. Tutta questa gente arrivata in piazza a un certo punto si accorge di essere maggioranza. La marea degli operai comincia a sciamare per tutta la città e cominciano a dare l'assalto alle case dei traditori. E chi sono i traditori? Sono quei popolani grassi che sono diventati troppo grassi, dei grossi proprietari di industrie, di aziende, dei giudici, dei giuristi, che sono stufi di questo governo largo. La gente lo sa, li conoscono per nome, Messer Lapo da Castiglionchio, giudice. Andiamo a bruciargli la casa. Il furore dilaga in città. Andiamo a bruciargli la casa degli strozzi, dei pazzi, i cittadini grossi. Andiamo a bruciargli la casa. Tutte famiglie, sì, di popolo in teoria, ma in realtà traditori. Il furore dilaga in città. Dove si va? Alle stinche, alla prigione. Si rompe la prigione e si liberano i carcerati. Andiamo a bruciargli la casa. Che vuol dire chiaramente, secondo noi il governo è corrotto e traditore, la giustizia è traditrice. Andiamo a bruciargli la casa. Ci dà l'assalto ai conventi, dai francescani a Santa Croce, dai domenicani a Santa Maria Novella, perché se succede il tumulto, i conventi magari verranno risparmiati. Stavolta non vengono risparmiati. Il furore dilaga in città. Furore dilaga. Sbarrano le porte, di notte si fa la guardia dappertutto. I cittadini grossi, traditori. Si va avanti così per giorni. La città è paralizzata. Andiamo a bruciargli la casa. Il furore dilaga in città. Candidatissima a diventare la prossima sigla di Zona Rossa, assolutamente sì. No, poi in realtà abbiamo già archiviato anche un'altra canzone che vogliamo dedicare a Meme per l'appunto sulla malinconia. Dopo ve la dedichiamo, però dopo, perché l'abbiamo convertita da vinile a vinile più bello. Allora, la lista si sta accorciando, per fortuna. Abbiamo la nostra direttrice, richiamala. Richiamiamo la direttrice. Maledetta direttrice. Dopo questo momento qua lascerà direttamente il programma per andare verso... Speriamo. No, non questo, non so, sbagliato. Mi è venuto in mente quando la Grecia dicevano a tutte le misure di austerity, sì? C'era Oki means no, okay. Means no. Perché evidentemente non vuole che la chiamiamo. Non risponde. Cioè, per quello. Questo giro per dirci non vogliamo chiamare. Minchia, come sei attore. Madonna, è incredibile. Sei proprio attore. È proprio attore. Però lì, intanto ci leggi un'altra citazione. È da un po' che non leggi le citazioni dei Baci Perugina. Dai, insomma, allora lavorare. Ti abbiamo dato due noccioline, che è più di quanto hai guadagnato negli ultimi 6 anni di recitazione. Allora. Ma... bacio non dato e bacio sprecato. Bacio non dato e bacio sprecato. Grazie. Diciamolo. Grazie TR7, grazie. La radio è femmina subito dopo. Ma sai che è un bacio non dato e un bacio sprecato. Io sono veramente con due idioti in trasmissione. Sta diventando estenuante. Passiamo il deck di sinistra, intanto non si sa mai. Grazie. Andiamo a smettere di chiamare la direttrice perché ha veramente stufato. Lei non mi ha ancora detto di essere chiamata, quindi andrei su di lei. Andiamo su di lei, andiamo a prendere una persona che a quanto pare sente molto la nostra mancanza. Non si sa come, non si sa perché. È una delle persone a cui dedichiamo le risate migliori di Zona Rossa durante l'estate e ci parlerà a cuore aperto del tema del giorno. L'emozione. Esattamente. Grazie per il là, perché stava cadendo rovinosamente nel vuoto e invece mi hai preso per un piede. Invece no, l'ha salvato come Achille nel barattolo dell'invincibilità da bambino, che non era un barattolo, era un pentolone. Intanto tenete pronti gli argomenti, perché probabilmente non ci risponderà. Che viene immerso, tenuto per il tallone dalla sua mamma. Ma non nel pentolone, nel fiume. Vodafone. Niente, è roba pop. Va bene, è incredibile. Zona Rossa per la prima volta è senza numeri da chiamare. Sì, cioè, abbiamo finito. No, figurati. Il numero che mi hai dato prima, è vero. Perché qua spacciamo numeri. C'è spaccio. C'è spaccio di numeri. Meno male che è stato salvato. Assolutamente. Prima o poi sveleremo con un post tutti i numeri di telefono che abbiamo chiamato durante l'anno solare di Zona Rossa. Ci sta. Nomi e cognome, indirizzi. Vedo poche denunce. Professore Orizzonte. Silvia da? Silvia da Lodi. Intanto. No, prima che Rodi, si spaventa per le nostre brutte voci. Okay. Sì, ci fanno notare che quello del pentolone era Asterix. Vedo che c'è una vasta gamma di gente che deve farmi le pulci. Benvenuta su Zona Rossa Radio ZM, sei in diretta. Ciao Silvia. Ciao, da Lodi. Ciao Silvia. Ciao. Ciao, io sono Lorenzo, piacere. Ciao, sono Guglielmo. Ciao. E io sono Tommaso. Ciao. Ma non ti dice niente questa persona? No. Sta cercando di capire se è uno scherzo o meno. Non è uno scherzo. Sto cercando di capire se è uno scherzo. Sì. No, non è uno scherzo, anche se sembra. Siamo su Radio ZM, che è una radio che è collocata al sud di Milano. Libera. Siamo su un programma che si chiama Zona Rossa, che è un programma in cui chiamiamo le persone senza avvertirle, quindi tutto torna fino adesso. Pantarelle. E da poco abbiamo deciso di assumere un attore di fama internazionale. Si chiama Tommaso. Tommaso Russi, l'attore. Tommaso Russi. Ok, sì, mi dice qualcosa effettivamente. Ti dice qualcosa. Ora ti spiegherà Tommaso, l'attore che abbiamo assunto, il tema della puntata. Il tema della puntata, Silvia da Lodi, il tema della puntata è qual è l'emozione o il sentimento che hai provato più spesso? Ma io direi quella che hai provato in questi due giorni, che dopo due settimane che porca madonna ci siamo messi a organizzarci per fare un porco di video integrale per cercare di far girare uno spettacolo e invece devi rimanere chiusa in casa. Il sentimento di rabbia sta muovendo Tommaso Russi. Dici Silvia, dici. Silvia da Lodi. L'emozione che ho provato? Vai, dilla. Vaffanculo, cazzo. L'emozione del vaffanculo. Ci mancava, non è stata ancora detta, la segniamo. Quindi sì. Ci hai anche già raccontato l'episodio in cui sì, è successo. Quella di Gandhi, sì. Sì. Esatto. Intanto sì. Potreste anche parlare di questo spettacolo, visto che la gente da casa non sa niente di quello di cui state parlando. E noi siamo qui per farvi pubblicità, essenzialmente. Ascoltatori. Vai Silvia, dici tu, perché Tommaso è veramente un impiastro. Ok, è uno spettacolo a cui stiamo lavorando da un po', parla di precarietà e di quanto è difficile trovare la propria strada in un mondo che sembra sempre più precario, e direi che insomma quello che stiamo vivendo effettivamente va un po' nella stessa direzione. Sì, qualcosina ce lo dice, un vago problema, così. Ogni tanto mi viene in mente questa sì, cosa. Sì. Esatto. E quindi, niente, parla di desiderio, di paura, di ostacoli da superare, di delusioni. E vabbè, diciamo, sono temi che abbiamo sentito molto vicini in questi mesi. E ci piacerebbe, cazzo, ci piacerebbe poterli condividere con qualcuno e far sì che tutti ci sentiamo un po' meno soli nell'attraversare questa situazione. E speriamo che, insomma, si possa fare più prima che poi. c'è chi dice l'altra volta, sono una persona veramente un farabutto, faccio schifo sempre, e quindi mi spiace che Silvia è stata colpita da questa mia problematica. Ma Silvia, a me veniva in mente questa cosa, dato che tu immagino sia attrice tanto quanto Tommaso è attore, in realtà molto, molto meglio di Tommaso, immagino. Detto questo, come, cioè, immagino che tu avrai interpretato un personaggio o più personaggi all'interno di questo spettacolo che avete in mente, e quindi volevo chiederti se, non è una cosa troppo complicata, dei tuoi personaggi, dei personaggi che interpreti, qual è l'emozione che loro rappresentano, che loro vivono, che loro hanno, che loro attraversano? Perché a me piace molto vedere come gli attori si, cioè, capiscono che il personaggio è un'altra cosa. Cioè, per me, quando un attore è sul palco diventa il personaggio, per l'attore sa che lui è se stesso, quindi lei è sempre Silvia e sta facendo un personaggio, per cui avrà un'idea di cos'è il personaggio fuori da sé. Il gioco del teatro in 30 secondi. Vedi, questo l'ho capito, questo e altro in Zona Rossa, sono solo su Zona Rossa. Sento stremato, ho capito una cosa. Silvia fa un venditore particolare. Vai, dici come fa il tu la venditrice a questo punto, o fa il venditore proprio? Cioè, maschio o femmina? Il venditore. Ah, ok, fa il maschio. Ok, e quindi com'è il tuo personaggio, che emozioni vive, o fa vivere, o esprime? Questo venditore vende, e quindi rende desiderabile una cosa che probabilmente non lo è, ma ti fa credere che lo sia. E cioè? E cioè le delusioni. Perché attenzione, in realtà tutti noi abbiamo bisogno di delusioni, no? Perché le delusioni sono quelle che ci rendono forti, no? Beh sì, tendenzialmente sono la cosa che ci fa andare avanti. No, si sa che la strada per il successo è la stricata di fallimenti. E quindi o di in cadaveri, realtà, di solito dicono però. O di buone intenzioni. Diceva mai come? Buongiorno. Scusa. Basta, dimmi tu, sto dicendo cose sbagliate. No, dico che quello di cui tutti noi abbiamo bisogno in realtà sono delle delusioni. Perché senza delusioni non andiamo avanti. Quindi in realtà anche tutto questo che ci sta succedendo ci rende più forti, ci fa desiderare ancora di più quello che vogliamo ottenere, quindi ci porta più vicini alla nostra meta, no? Quindi in realtà è un bene che le cose ci vadano storti, che siamo impossibilitati a ottenere quello che vogliamo, perché questo ci fa provare ancora di più e quindi ci avvicineremo sempre di più a quello che vogliamo veramente, no? E questo è quello che racconteremo a tutti i parenti di suicidi del primo di gennaio. Grazie. Esattamente, grazie Silvia. In realtà io da un certo punto di vista sono d'accordo, perché come Guglielmo ben sa, una frase che mi piace tanto è: a me piacciono i problemi. Madonna, non l'avessi mai detta. A me piacciono i problemi perché, secondo me, o appunto le delusioni, perché nel momento in cui si innesca un moto di risoluzione verso queste delusioni o questi problemi, poi la fine, tra virgolette, è molto piacevole. O sbaglio? Se non ci fosse fatica, non sentiremmo tutto quel piacere nel risolvere un problema o nel risolvere una soluzione. Intanto arrivano dei messaggi agghiaccianti alla chat di Radio ZM, non si capisce. E ti viene anche risposto... Leggi qualcosa. Sì, sì, sì, perché una risposta è proprio per te. Appena la regia mi mostrerà di nuovo il pannello della radio... Io non ho bisogno di delusioni. Ci dicono che da casa non hanno bisogno di delusioni. Argomenta Silvia, grazie. Ma no, no, perché sono le delusioni che vi fanno andare veramente fino in fondo, perché se non venite messi alla prova non potete sapere quanto desiderate veramente una cosa. Vero. Solo quando venite messi di fronte all'impossibilità di farcela, allora tirate fuori le unghie, i denti e veramente mettete tutti voi stessi, tirate fuori il meglio di voi per raggiungere quella cosa lì. È evidente, no? Perché c'è vita facile, poi insomma... si siede su De Allori, no? Come si suol dire. Assolutamente. Invece no, si viene messo alla prova che ottiene grandi risultati. Ed questo... è evidente, no? Tutto fuori ce lo dice. Anzi, più tempo e più energie noi investiamo in questo, più in alto poi arriveremo, non importa, no? Se abbiamo 30, 35 anni, cioè è giusto continuare a provare, a provare, a provare. Scusami, giusto? Silvia, però cioè, quello che dici è assolutamente giusto. Dopodiché, secondo me, bisognerebbe prenderla anche in un'altra maniera. Ora, quando uno dice ho provato questa esperienza nella vita, è stata una delusione, mi ha aiutato a crescere, dice ok, va bene, giusto. Quello che secondo me talvolta facendo questo discorso si salta è che, se mettiamola così, se uno nasce in periferia e magari gli manca un genitore e magari deve andare a lavorare a 15 anni e magari lo licenziano e magari qualche fa fatica a mettere insieme il pranzo con la cena, quando iniziano ad arrivare quelle delusioni lì, ecco, forse lo schema diventa un pochino più complicato. Si potrebbero evitare. Sì, a quel punto uno dice sì, ok, va bene, mi fa vedere quanto mi importa di salvarmi la pelle, dar da mangiare a me e alla mia famiglia, piuttosto che pagarmi per l'università, però al tempo stesso... Cioè, affermare che queste delusioni sono sprono, sì, sono sicuramente lo sprono a vivere, però quando uno è impegnato a sopravvivere, le delusioni iniziano a diventare un po' pericolose, perché sono lo spettro di qualcosa di più pericoloso. Ma questo era il nostro venditore di delusioni. Ah, giusto, giusto, giusto. E giusto, speriamo prima o poi, di quando sarà che faremo lo spettacolo, potrai rispondere. Comunque potrei alleggerire subito dicendo che c'è chi su Telegram ci manda numerosi GIF, numerose animazioni, non sapendo che siamo noi alla radio, che cazzo facciamo? Raccontiamo la GIF che ci hai mandato. Le dobbiamo rimandare sulla chat di Radio Zeta. Ah, giustamente. Ah, comunque ne vogliono di meno di delusioni. Ne vogliono di meno delusioni, ma qui c'è, appaiono cose che si muoiono. Silvia, è stato un vero piacere, ti possiamo liberare, grazie mille per il tuo contributo e tutta idea di Tommaso. È stata una bella sorpresa. Segui Radio ZM, mi raccomando, perché verrai chiamata altri mercoledì, dato che adesso abbiamo il tuo numero. Anche di anche a notte fonda, probabilmente. Alta del mattino circa, ti chiamiamo. Ok, tanto io sono in quarantena, quindi... A posto, perfetto. Fantastico, perfetto. Hai del tempo. Hai del ciao tempo. Silvia. Ti hai detto dove andare a prendere i nostri podcast? Aspetta Silvia. I nostri podcast freschissimi puoi trovarli sulla pagina Facebook di Radio ZM, che ti manda al canale dove ci sono tutti i nostri podcast. Salutiamo Riccardo e la sua programmazione fantastica. Grazie Riccardo, sei fantastico. Bravi. Grazie Silvia. Ciao Silvia. Grazie. Adesso andiamo a prendere le persone che mandano le GIF. Bastarde, cosa mi mandano le GIF a fare che non le posso leggere in radio, immediatamente. Intanto l'attore, uno molto vecchio, senza denti, che diceva qualcosa tipo Isso è falta de potassio. Ma cos'è? Isso è falta de potassio. Attenzione. Cos'è successo? È una comune. Ah, ok. È una comune di persone che non stanno tanto bene. La comune, no. Allora, in questa comune ci sono Lady G. Sì, che è già ubriaca. Indovino Veritas. Indovino Veritas. Ale dice di no, che non c'è. Ale non c'è. Grazie, salutiamo Ale, grazie Ale. Ciao, almeno Ale. Grazie. Minimo di supporto, grazie. Raga, secondo me questa è la puntata dell'anno che è uscita qua. Sì, l'ha detto. Successo. C'è anche Hank. C'è viva. Allora, a rotazione l'attore Tommaso Russi vi leggerà la domanda e a rotazione voi risponderete. Rota. Adesso non so se lo riesco a fare mentre giro su me stesso. Vai, ruota. Dilla però. Siete dei pirla. Che coglione. Si interrompe. Allora, ci vorrebbe una telecamera perché lui girando su se stesso si è avvitato il cavo delle cuffie intorno al collo e stava per morire soffocato. Comunque, la domanda è, ma visto se stavate già seguendo, già sapete. Qual ma è ci piace la tua voce, ci piace la tua voce. Attore. Qual è l'emozione che sentite più spesso? Oh, che brividi. Ragazzi, che Oscar, che scegliete Oscar. Scegliete prima che risponderà a questa domanda. Inizio io perché figurati. Sono un po' preparata, mi sentite? Quanto è alcolica Gioia? Ricordiamo che Gioia ha risposto anche al sondaggio su Instagram. L'abbiamo ricordato. Vabbè, poi lo leggete o lo volete leggere adesso? No, lo leggiamo dopo, dici. Dici l'emozione. Allora, penso che sia l'allegria. Attenzione! Ora sì. Ci devi raccontare un momento di allegria. Poi vabbè, ci sono le giornate di merda, i periodi di merda, però direi che è l'allegria. Va bene. Tendenzialmente l'allegria. Toda gioia, toda bellezza. È attore. Anche questa se l'era preparata la settimana scorsa. Sì. Raccontaci un... Sì, pessimo sempre. Raccontaci un episodio di allegria. Oh santo cielo, non lo so. Oh santo cielo. Quando guardo Davide negli occhi. Oh mio Dio! Ma la puntata degli flirt, ma cos'è? Oh. È stato detto, la puntata dell'anno. Adesso la devi guardare negli occhi e dirle... Lo sai che la radio è femminile. Non ti si sente, Tommy, quando parli. Ma meglio così. Meglio, la devi guardare negli occhi e dirle... Lo sai che la radio è femmina. No, questo non lo dirò mai. Va bene, grazie Davide, sei simpatico. Ora a chi tocca? Vabbè, mi butto. No, non ancora, Davide, non farlo. Hai la vita davanti, Davide. Non ti buttare. Non ti buttare. Siamo troppo in alto. Non ti buttare, Davide. Mi butto male. Perché so che mi prendete. Per il culo sicuro. Il volo non lo so. Vai, quindi dici. Allora, non so se è già stato detto durante la trasmissione, nel caso poi provo a improvvisare e inventarmene un'altra. Comunque ti sento sobrio, Davide, ti sento molto sobrio. Sobrio e circonciso. Vai bene, vai, dici. In questo periodo è l'amore. L'amore! Raga, nessuno l'ha detto fino adesso. Incredibile. Beh, ci voleva, cioè, io quando guardo Gioia... Sta esplodendo. Ragazzi, alla fine. È una dichiarazione in diretta. Fermi tutti, ma si può chiedere... Non lo so, ma io come al solito sono esagerato. Un bacio in diretta si può chiedere? Si può chiedere. Già un bacio. Già fatto! Oh, santo Dio! Ma la domanda adesso è: te la porti a casa? Bella questa. Non fa ridere. No, hai ragione. Davide, scusa, vieni a zona rossa, per favore, abbiamo bisogno di te. Vieni a zona rossa, Davide. Più che altro, io vorrei. Allora, poi devo andare a bollate, raga. Devo andare a bollate. Minchia, no, ma già processato. In generale. Io che porto Davide in camera mia. Oh mio Dio, ma solo perché Davide una camera non ce l'ha. Comunque, mancano altre persone nella comune di Viale Molise, ci sono altre teste da sentire. Per i mille ascoltatori che non Caterina, lo sanno, abitano insieme. Caterina! Cos'è? Caterina! Caterina mi ha chiamato alle casse. Caterina, per favore, Caterina, rispondi. Ci sono, e anche questa volta Aless Lunga mi ha offerto un Campari. E figurati. Allora, Caterina, c'è l'attore, ha una domanda per te. Aspetta, però prima, Caterina, voglio chiedere una cosa. Aless Lunga ha offerto? Cioè, perché ha offerto proprio? Ogni tanto regalo il Campari. Era in sconto, era in grande sconto. No. Era in grande sconto. Salutiamo Caprotti che ascolta Zona Rossa. Ma a me manca Caprotti, che stando fuori e... quando torno a Milano è un'emozione. La nonna è Esselunga. Caterina, io ti stimo e ti rispetto. Io ti stimo e ti Grazie. Rispetto e avremo qualcosa in comune. Se vorrai un giorno andremo insieme per offerte di Esselunga. Via, a posto. In diretta. Mi dicono di dare questa notizia in diretta, che è finita la partita Verona-Inter con il risultato di 1-2. Abbiamo vinto anche oggi. Nell'ordine giusto, sono stata brava. Abbiamo vinto anche oggi. Derby del nazismo tra Inter e Verona. Caterina, l'attore del programma vuole farti la domanda della puntata, se non l'hai già sentita. Ciao l'attore. Se è la stessa degli altri l'ho sentita. Allora rispondi. Risparmio lungo. Però ne avesse una speciale per me. Ce la stiamo costruendo. Ce l'ha. Ce l'ha. È attore. Sei sola. La radio è femmina sempre e comunque. Andiamo avanti, puoi rispondere alla prima domanda, non alla seconda. Grazie. È una citazione di Love Radio Rock. Attenzione. Può darsi. Sì, quella sì. Dopo era pensami quando. Però non andiamo oltre. Va. Censura. Va bene, ti domanderò. Va bene. Comunque è molto bello. Dici. Niente, raga, non lo so. Allora, l'emozione che provo più di frequente è davvero una domanda difficile, anche perché molte sono già state dette, quindi è estremamente faticosa. Raga, non so più ma l'emozione. Vabbè, ma Guccini, fratello. Cata ha passato una giornata intera. Scusate, raga, esatto, io non ho dormito. Poi ci ho fatto un po' di viaggio in treno oggi, quindi sono un attimino. Cosa provavi in treno? Esatto, poi circoscrivi la risposta alla domanda nella giornata di oggi. No, ma c'aveva una cosa un po' di frustrazione. Oh! Hai visto che la più facile? Perché volevo darvi qualcosa di positivo. Però ma non ci va, figurati. Una giornata faticosa. Zona rossa è B negative. Chiedo perdono, ma guarda che le emozioni sentive vanno bene tutti. Esatto. Tutti quanti, ce ne sono sbagliati. Per cui va bene, frustrazione va bene. Adesso frustiamo qualcuno. Esattamente. Cioè, comunque ti siamo vicini, perché anche noi spesso e volentieri. Sono le tre in Italia. Dai, attenzione, ma quello lo facciamo già a prescindere. Sui treni. Però ti siamo molto vicini, perché molto spesso anche a noi coglie la frustrazione. Per tante cose. Grazie per il tuo contributo. Quindi, se vuoi raccontarci brevemente cosa hai passato oggi. No. Allora, Ho lavorato stanotte in ospedale, quindi insomma ci sono un po' di cose da sistemare lì, però non volevo buttarla sul sociopolitico, quindi vi risparmio quella parte. Peccato. E niente, ho fatto un po' di avanti e indietro su dei treni e perché ho ricevuto l'esito del mio esame Covid serologia, che era diciamo un po' in conflitto l'uno con l'altro per essere un pochino rapidi, e quindi ho fatto un po' di andirivieni senza aver adeguatamente ripreso le forze dopo la notte, quindi ho fatto un po' di fatica a gestire il tutto. Che sbatti, che frustrazione. Sono stata esaustiva, però è stata come un pesce. C'è da dire che la frase più la frase più gettonata di gioia quando siamo arrivati in casa è: sono frustrata, quindi andate d'amore e d'accordo. Allora, sfondi una porta aperta, allegrezza, perché vedi, dare sentimenti positivi. Esattamente. Scappa più lontano che puoi adesso, però. Ora potete passarmi Hank? Tommaso prima. Cosa, Davide? Una richiesta per Tommaso. Tommaso, ti tolgo la tua attenzione. Un dialogo tra attori. Ascolta. E io ascolto. No, volevo semplicemente chiedere con l'R. Aspetta, non si è capito niente perché il telefono va e viene. Puoi ripetere, Davide? Scusate, ma a noi basta poco. Ma cosa ha detto? Non si è capito. Puoi ripetere, Davide, la richiesta per Tommaso? Se poteva dire frustrato con l'R moscia. Vai Tommaso, vai, è il tuo momento. Vai a vedere chi sei e quanto vali. E quanto ti paghiamo, tra l'altro? Credo di essere veramente frustrato. Sembra Fergi, è incredibile. Bravo, bravo! Grazie Tommaso Russi. Perché me la paghi cara. Cara! Cara! È il valore aggiunto di Zona Rossa. Scusami tanto, Caterina. Ma non c'è un quarto della comune di Viale Molise che vuole spendere due parole per i sentimenti? Adesso non riesco. Lo stanno andando a prendere. Pestano male, non portano. Va bene, Gioia, vuoi dirci qualcosa della prossima puntata delle Ribelli? Vuoi darci un'anticipazione? No? Non abbiamo più Gioia al telefono. Alessandro, ci senti? Non abbiamo più Gioia. Alessandro è scappato. È scappato, basta, scappato. Niente. Ma anche purtroppo non ha il dono del linguaggio, anche se glielo stiamo provando a insegnare. Comune di Viale Molise, è stato bellissimo, grazie mille, ascoltatevi la canzone che vi dedicheremo alla fine del vostro intervento, perché ora è arrivato il momento di mandare una musica, perché dobbiamo tirare il fiato e pagare Tommaso e dargli una mazzetta dopo. Adesso arriva. Stai buono, adesso arriva. Una stretta di mano calorosa e a posto. Ringraziamo Lady G, H, Gioia, H, R, Moscia per la colonna sonora. Appuntuto. E mettiamo una delle migliori che ha scelto. Quale? Cioè, quella sotto, quella sotto, quella che stai selezionando. Quella sotto. Esattamente. Madonna, ascoltate Radio ZM. Lasciatemi un piattino per la cena, per favore. Non lo so, guarda, dopo questa puntata non lo so. Ma come? Scusa. Ma che cazzo vuoi? Ti abbiamo chiamato, ti abbiamo letto perché? Tutti i messaggi che hai scritto. E ride, è così, è l'ironia di Gioia. Vabbè. Grazie Gioia. Ciao Davide. Ciao Davide. Comunque ragazzi, Indovino Veritas è una roba geniale, è geniale, è vero. Comunque io l'unico momento in cui ho incontrato la gioia era vicino alla regione Lombardia salendo dalla metro. Norberto, questa te la dedico. We'll be right back. lasciamo perdere. Intanto, spero, io spero vivamente che quel pulsante rosso non venga per sbaglio mai lasciato aperto durante i fuori onda di Zona Rossa. Sì, perché sì, si raggiungono dei livelli in cui io sto sudando veramente tanto. Diventa difficile. Diventa difficile. Verso la chiusura, o almeno così spero, perché sta diventando veramente molto faticoso. Ci mandano delle foto che sarebbe bello pubblicare su Facebook delle future redattrici di Zona Rossa. Indosso degli occhiali improbabili, no, sugli occhiali da saldatura di Riccardo. E quindi ho già svelato chi sarà mai questa persona, con un'espressione meravigliosa. In tutto questo, se volete partecipare alla chat di Zona Rossa, che comprende tante H alla fine della A di Zona Rossa, potete scriverci e verrete aggiunti. C'è gente che viene aggiunta alle 10.34 e esce alle 10.34 e 30 secondi. Molto Zona Rossa. Non è un problema, è molto Zona Rossa. Molto rossa. Mi raccomando, continuate a rispondere o no alle nostre telefonate, perché noi viviamo di voi e per voi. In tutto questo io vorrei tirare su un argomento molto caldo, molto sentito, perché Davide finalmente è l'unico che mi ha lanciato il ponte verso quello che poteva essere il ragionamento della puntata, quindi in chiusura, che è il tema dell'amore. Ah. Ok? Perché con una persona a me molto cara in questi giorni abbiamo chiacchierato molto e sono venuti delle cose, abbassa il deck di sinistra, grazie. Chiedo perdono. Sono venute delle cose molto interessanti sulla questione dell'amore e dell'innamoramento, perché gli appunti che ho preso nel mio block notes sul telefono recitano queste due frasi. C'è la differenza tra innamorato e amare una persona, perché si è innamorati di o si sente amore per. Commentate. Arrivo. No, a me piacevano invece le brigate della morte di Mosca. Tu, attore, non ti è consentito guardare lo schermo della regia, perché sennò ti distrai. Ah. Invece chiedo a te dove hai messo la canzone che volevi mettere dopo. Nel download. Nel download. No, io ho sentito si è innamorati di o si prova amore, no? Esatto. Il concetto che è venuto fuori dal discorso che abbiamo fatto è: si è innamorati di, ma non si ama la persona di cui si è innamorati, perché l'innamoramento è una cosa e l'amore per un'altra persona è un'altra. Quello che mi viene da dirti è che amore è se condiviso. Attenzione. Innamorato di, purtroppo non ha per forza. Può essere senso unico. Eh sì, e quindi anche non per forza, cioè, eccetera. Mentre secondo me l'amore è bello se condiviso. Come? Chi è che la cosa è bella? C'era una frase di Che Guevara, però adesso non mi viene in mente. Nel frattempo faccio notare che ci sono delle incongruenze in quello che mi avevi detto. La felicità è bella secondo me. La felicità è bella se condivisa è una citazione di Thoreau, che compare nel libro di Into the Wild, da cui è stato preso il film. Sì. Ed è la narrazione su cui si basa tutto il libro. In questo caso però effettivamente non ho specificato, partiamo da un soggetto che si rapporta a un altro soggetto, quindi il senso unico che tu vedi nell'innamorato può essere anche il senso unico che vedi nell'amare una persona che non per forza debba ricambiare. Però è quella forma, forse, di libertà totale che tu lasci alla persona amata. Nel senso che se sei innamorato vuoi possedere, se sei innamorato vuoi conquistare, mentre invece se ami, ami incondizionatamente. E può essere molto simile, grazie Guglielmo, grazie regia. Questa è per meme, che ricorda la malinconia. Ma non è la canzone che volevi tu? Sonata. Sì, è proprio... Ma è molto simile però. Va bene, così. Sempre Beethoven. E quindi è caduto nel vuoto il nostro ragionamento. No, mi spiace. Non è caduto nel vuoto. Mi sono perso. L'innamoramento è sicuramente il momento iniziale in cui tu essenzialmente, mi esprimo male perché io sono fatto così, però gli occhi a cuoricino, la persona che ami è la persona migliore in ogni cosa di ogni essere umano in generale. Poi quando arriva l'amore ti rendi conto che l'altra persona è un essere umano, che hai i lati belli e i lati brutti e, questo diceva mia mamma, persona di nota saggezza, sì? Ami i difetti. Esatto. Riesci a vedere non soltanto le cose belle di quella persona che ti hanno colpito, affascinato, che ti hanno portato ad amarla, quindi dall'innamoramento si passa all'amore, ma tu ami i difetti di quella persona. Sono con te, sono d'accordo. Cosa che... ami nonostante. Nonostante. No. La questione è che se tu ami sei innamorato di difetti. Cioè, la questione è che se tu ami nonostante, al primo o poi, a un certo punto, tu, cioè, non ti stuferai di passare questo scoglio, questa barriera, o di non vedere quei problemi. In realtà, devi. Così mi disse appunto mia madre, l'amore che ti rende, cioè ti hai per sempre, è quella cosa che non ti stufa mai. E quindi l'unico modo è che ami anche quelle cose brutte. Cioè, ti fanno sorridere, ti fanno ridere, ti rendono una persona più interessante. C'è tutto da dire questo, che tua mamma però ti diceva anche che Babbo Natale esiste. No, era Gesù Bambino, ma comunque sì, mi ha raccontato una serie di palle non indifferenti mia madre, sì. Allora, io a questo punto virerei verso le risposte nostre, perché è arrivato il momento, come il nuovo Zona Rossa, la nuova redazione ha deciso preciso. Parte da, quindi, sé, parte da sé, parte da sé, e noi in coda partiamo da noi e chiediamo a Tommaso Russi di raccontarci qual è, e chiediamo a lui. Esatto, qual è quel sentimento e quell'emozione che sente più spesso. Ma prima, chiedo perdono, una questione di regia, non riesco a trovare la traccia. Ah, lo facciamo mentre prego, Tommaso, sproloquia. Certo, mentre Tommaso parla da solo. Purtroppo il sentimento, l'emozione che sento più spesso in questo momento e con cui combatto negli anni è l'impotenza. L'impotenza perché vedo che nonostante sforzi, lotte, più di tot non si riesce ad andare. E cerco di combatterci contro, perci, perché il rischio è di abbandonarci, sì, e seguire questo flusso tremendo del capitale. Puoi raccontarmi un esempio? La mia vita. Tutta la mia vita. Tutta, sì, quanta. La lotta contro l'impotenza. Ricordiamo appunto nel ramo dello spettacolo e del teatro. Ma anche della politica, cioè ogni tanto ci si sente del teatro, ci sente un po' dei Don Chisciotte contro dei, sì, mulini, sì, a vento. Sì, sì, sì. E quindi fai una grande lotta. La lotta che hai ha un grandissimo valore, ma il Palazzo d'Inverno non c'è, porco Dio. Non ancora, ma ce la faremo. Una zona rossa per passo alla volta, piano piano, e andremo avanti. Guglielmo. Ah, così a me tocca? Esattamente. Siamo tre. No, pensavo che intanto finalmente è arrivata la dedica che volevo fare a Meme, che è... No, non è ancora arrivata. No, non torna, è ancora su arrivata. Sound Converter, che è lì, quello, che è quello qua, verde. Perché non ce lo vedevo qui, quindi adesso c'è... Lo mettiamo... Non... No. Intanto vai avanti a rispondere. Sì. Questa cosa è fantastica. Allora, il sentimento che proprio più spesso in questo momento sono svariati. Quello che mi viene in mente sarebbe il rancore. Cioè, il sentimento in realtà che proprio spesso, non nell'ultimo periodo. Ed è un sentimento meraviglioso perché ti riempie la testa e il cuore di cose fantastiche come rabbia, odio, è tutto perfetto. Quando sei pieno di rancore hai tutte le motivazioni del mondo per fare ogni cosa che vuoi nella vita, solo che, questa cosa, dato che io sono una persona molto, molto semplice, l'ho trovata nei fumetti, solo che il rancore ha questa spiacevole cosa, il fumetto si chiama Berserk, a un certo punto c'è il fabbro che produce la spada per il protagonista, che gli fa questo discorso, fai come se tu volessi pulire il sangue che hai sulla tua spada immergendola nel sangue. La questione è che quello che fa capire cosa fa il rancore è che il sangue corrode il metallo, perché certo, soprattutto quello umano, cioè molto di più, perché si lega all'ossigeno e quindi corrode la spada. Quindi tu, cercando di pulirti la spada dal problema che hai, cioè, stai cercando in poche parole di pulirti con lo stesso problema, e quindi ti nutri del tuo odio e del tuo rancore e non stai capendo che stai distruggendo la vita a te stesso, e quindi il protagonista poi cambia la vita, eccetera. E quindi niente, il rancore ha questo aspetto molto positivo e bello che ti riempie, ti dà una forza, ti dà tantissima forza per andare avanti, ma al tempo stesso ti consuma, ti corrode e non ti permette di andare avanti. Un esempio, e perché rancore con i miei compagni e le mie compagne di ZAM, quantità di rancore infiniti per cose che non sono state percepite, mai pareri che non sono stati ascoltati, proposte che non sono state accolte, ma proprio una devastante quantità di rancore. Lunedì scorso, lunedì, sì, precedente, più o meno ogni lunedì c'è qualche altro quintale di rancore da esaurire, e quindi faccio molto sport a combattimento perché il sacco non si fa male, giusto, vince sempre, giusto, lui, giusto. È resistente, è molto resistente, per cui mi sfugo su di lui, mi sfugo in altre piccole cose della vita che sono più costruttive, e basta, e questo è quanto. Stiamo continuando a descrivere questa vasta raggiera di emozioni, prima o poi arriveremo alle 6.000, forse verso domani mattina alle 6. C'è Guglielmo che ha detto, quindi mi sfuggo verso di lui per sbaglio, però questa idea di lui che fugge verso il sacco da colpire, a me questa immagine piace. Ti piace. Abbiamo evocato emozioni verso Tommaso. Yeah. Io ci stavo pensando da una settimana, perché ovviamente è una settimana di intenso lavoro in redazione di Zona Rossa, quel minuto e mezzo al giorno prima di andare a dormire, sì, in cui pensi, esatto, ho un programma radiofonico. E sei successo a fare la cacca. Esatto. Stavo per essere distratto, però ho deciso invece di mantenere il sentimento che avevo messo da parte, ed è molto interessante perché è già riecheggiato tantissimo. Ne abbiamo parlato con Q-Code durante una diretta che abbiamo fatto per presentare il nuovo numero, ne parliamo spesso con i compagni e le compagne di Aurora quando seguiamo i loro percorsi, ed è la paura, che è un sentimento che non è stato ancora toccato oggi, ed è interessante, almeno partendo da me, perché è, insieme ad altri che magari sono stati già detti, che non dico io adesso, ma è quel sentimento che involontariamente modifica qualcosa all'interno del tuo corpo, la tachicardia che ti viene nel momento in cui pensi che ci sia qualcuno dietro di te, piuttosto che anche le paure quelle più, come posso dire, più naturali, mi viene da dire, o quelle più umane, che sono trovarsi al buio in un bosco con delle luci che fanno delle cose strane. Quel sentimento che sale, quel sentimento che sale, quella paura che sale, è incontrollabile. E la cosa che mi è sempre più incuriosito è che il filone cinematografico degli horror ha permesso alla società che ci fossero delle persone che pagano per provare della paura. Noi passiamo il tempo a cercare di combatterla, mentre invece ci sono, attraverso l'esempio del cinema, potremmo fare altri esempi che adesso non mi vengono in mente. Le case dell'orrore. Le case dell'orrore. Gli sport estremi. Gli sport estremi. Ci sono dei momenti in cui l'uomo va a cercare questo sentimento perché effettivamente, essendo molto forte ed essendo anche facilmente incontrollabile, si fa sentire. E quindi è una cosa che percepisci molto. Io un esempio che porto, perché l'esempio Gioia ce l'ho. Mattina. Mi ricordo che eravamo in Toscana, in questa casa in mezzo a un bosco con degli amici per lavorare in quel periodo durante l'estate. 2 settimane ci siamo fermati, un posto dove devi fare l'orto per farti da mangiare, non ti lavi quasi mai, una cosa molto ruderalis. E faccio uno spoiler perché tanto ormai siamo in orario molto alto. C'era un sacco di nebbia, diciamo, no? Di nebbia psichedelica in quella casa. Ah, ok. C'è stato un momento in cui una persona che assisteva semplicemente a questi momenti molto colloquiali ha un attacco epilettico orribile, veramente brutto. È durato circa un minuto e mezzo. In un contesto del genere, dove un'ambulanza prima che arriva stai fresco, l'ospedale più lontano era a 50 km in mezzo al bosco di notte, quando abbiamo sventato il pericolo e abbiamo capito che andava tutto bene, la paura non se n'è andata. E io e il compagno di questa persona, che eravamo svegli e abbiamo subito agito per aiutarla, siamo rimasti terrorizzati tutta la notte. E i rumori che sentivamo di notte, che erano gli stessi di tutte le notti, in quel momento erano più acuti, erano più presenti, le ombre, le cose. E il sentimento della paura è tangibile. Però cerchiamo di sfuggirlo, noi cerchiamo di combattere la paura, di uscire fuori da questa condizione, mentre invece l'essere umano a volte la va a cercare. Mi è venuto in mente, in questo acuirsi di tutti i rumori, quella scena in Mediterraneo. Sì, bellissimo, consigliamo. Sono loro che stanno facendo il turno di notte, sentono un rumore, pensano che siano i tedeschi, sparano, e invece era il loro asino super amico. E quindi anche ingannevole. Jean-Paul Sartre ne parla tantissimo in Essere Nulla, del sentimento della paura, che molto spesso appunto è riconducibile a un suono. Durante la guerra un rumore da un cespuglio lontano poteva essere sinonimo di morte, perché magari c'era un cecchino dall'altra parte che ti stava per sparare. E quindi la non presenza della paura fisica, ma associata a un rumore, ad altre cose. E secondo me, man mano che la società va avanti, le paure cambiano, diventano molto, molto presenti. La psicanalista del mio ex coinquilino ha raccontato appunto al suo paziente che nell'ultimo periodo, negli ultimi anni, i sogni più comuni delle persone erano di sognare la gente che annegava in mare, perché è una coscienza collettiva, una paura collettiva che si sta insediando all'interno del nostro immaginario. Per esempio, tu non sei colpevole di questa cosa, ma ti senti colpevole appartenendo a questa società di persone che le fanno morire in mare, e quindi inizi a sognarlo. Ma magari entra nel se ci fosse, appunto. Esatto. Va bene, adesso per riequilibrare questa serie di cose interessanti, intelligenti e di senso dette in questa trasmissione, un minuto di Versace al mio microfono. Giustamente. Zona rossa, puntata detta la puntata dell'anno. C'è stato detto che diventerà una quota, una cheat, la puntata dell'anno. Ma davanti un minuto e mezzo, meraviglioso. E comunque ringraziamo chiunque, qualsiasi cosa, animale, persona che ci fa provare emozioni. Viviamo di questo e andiamo avanti a cercarle. Grazie, perché a tutti. È giusto così. Grazie a tutti, vi lasciamo con Beethoven e i pochi pezzi in chiusura. Ci ringraziano per questa puntata e per tutte le altre tante sollecitazioni e risate. Viva Zona Rossa! Viva Zona Rossa! Secondo me qui c'è lo stesso tasso alcolico che c'era nella comune di Viale Molise. Smettetela di bere quando ci ascoltate, che poi sembra che diciamo cose belle. Allora, e riprendete a leggere Berser. In tutto questo, settimana prossima è il 30. Io non lo so, vediamo. Mercoledì è il 30. Potremmo fare tipo puntata speciale di Capodanno. Potremmo farla. Attenzione. E saremo veramente in zona rossa. Attenzione. Oddio. Ritorno. Tutto questo è incredibile. Grazie Lady G, grazie a tutte le persone che abbiamo chiamato. Viva i sentimenti, provatene sempre perché fanno bene. Evviva voi. Come faccio io a mettere la musica? Io ti consiglierei adesso, giusto così. Questa è sempre dalle DG, Kevin Morby. Su. Eccolo lì. Veramente dalle DG. Veramente dalle DG. Ci teneva tanto. Hasta il sentimento. Sempre. La radio è femmina e ce la rivendichiamo. Niente. Altra frase intelligente da dire. Ciao. Fatto. Harlem River, talk to me. Tell me what you think about Harlem River. I'm in love, love, love, love. Harlem River, talk to me. Where we headed now? Harlem River, I'm in love, love, love, love. All because of you. In my pearl, in my diamond shoes, I've climbed a cloud, now I've stole the moon. Harlem River, all because of you. Swallow me, put your hands around my neck. In Harlem River I can't breathe, they've got the lights down now. In Harlem River give me wings, put my head up in the clouds. In Harlem River all because, oh I'm nowhere now. Is it true that in my pearl and my diamond shoes I've climbed a cloud, now I've stole the moon. Harlem River, all because of you. I don't. that Harlem River. Right off.